Non c'è le schede, fuga. Che caratteristiche è? Cioè, cosa serve? Fuga ti serve per sapere quanto sei veloce a scappare, fuggire, correre, eccetera, eccetera. Dimmi invece cosa sono percezione, mira, vigore e accortezza. Accortezza è tipo stealth. Ok. Mira è mira, per mirare con un'arma da fuoco. Sì. Percezione è appunto l'abilità percezione, Perception. come esatto, come in dungeon. E che altro hai chiesto? Vigore Vigore è tipo costruzione. e volontà. E volontà è tipo forza di volontà, è quella tipo di power, quindi è quanto sei resistente a, non so, non parlare sotto interrogatorio, queste menate qua. Socialità è tipo carisma e diplomazia. Socialità, esatto, sono tutte le abilità che ti permettono di rapportarti con gli Ah, intelletto immagino sia come l'int. altri. Esatto. Cthulhu Teologia, Lumen. eh? Ho bisogno di un Quello. Teologia è tipo la conoscenza di tutto ciò che c'è di nuovo su Rile, quindi tipo le razze aliene, i riti, i Tulu, i miti degli antichi, eccetera. manualità? Manualità è tipo rapidità di mano, ma anche se devi fare qualcosa di precisione con le mani, per cui per esempio se devi medicare, se devi... Ti la prendi? No, La memoria aperta mi è uno schifo. sì. Cosa? Hai il microfono nuovo, Vez? Hai il microfono nuovo, Vez? Usiamo il microfono per la registrazione. Ah, funziona bene adesso? Ho portato le casse. Voi non avete le cassette, no? Ah, vabbè, mi sentite? Che problema c'è? Sì. Noi sì, non ti sentirai. Forse sì. Beh, qua davanti. Aggiornamento Chi software. se ne frega comunque. Comunque. No, forse io ci posso prendere le mie del computer, però. Ok, vabbè. Le caratteristiche le puoi mettere dopo quando faccio la scheda degli altri. Intanto ti dico cos'hai di speciale tu come guardia del corpo. Ogni ruolo ha due specializzazioni. Le specializzazioni ti consentono di avere vantaggio a un tiro di carta. Ora si trova guardia del corpo. Guardia del corpo tu hai schivare. Posso già segnarlo? Sì, come specializzazione. Non mi ricordo sotto la scheda cos'è. C'è specializzazione. No, faccio un manuale. La scheda non è fatta bene, bene, bene come altre schede. Gare? Allora, schivare, appunto, evitare i colpi e tutte le cose. Ho il barile. Che? È il barile, esatto. Sì. E pestare. E Oh! pestare è pestare, nel senso, non pestare coi piedi, ma prendere a legnate la gente. Dopodiché ti puoi segnare due contatti che puoi usare durante il gioco, tipo quelli di Urban Heroes. Uno è un buttafuori. Dove li segno? Questo è il problema della scheda, non ne ho idea. Annotazioni, Sì, annotazioni. sì, sì. Butta Butta fuori. fuori e un altro è un gestore di un locale notturno. Ci Questo si potrebbe essere diverte. anche rinomato come locale notturno, cioè abbastanza famoso. Nero. Come scusa? Ok. Ok, a questo punto hai delle peculiarità da scegliere. Ora non mi ricordo. I difetti? Ecco appunto. Allora, ora tu hai, ti vengono assegnate tre peculiarità. Le peculiarità sono tipo gli eventi di vita di Urban Heroes, possono essere neutri, positivi o negativi. Visto che sei umano, estrai quattro carte e ne scegli tre. A caso? Boh, Bisogna mescolare e pescare le prime quattro o posso pescarle anche dal mezzo a cazzo? no, come ti pare? Basta che non le scegli tu. E l'altra cosa, io ti dico cosa fanno e poi tu ne scarti una. Ok. Queen di cuori. Regina di cuori, arte. Arte. Facciamo una cosa però, perché sennò... Ok, asso di quadri. asso di quadri, lingua straniera. 8 di cuori. 8 di cuori, malato. Sicuro, capello. E 4 di picche. E 4 di picche, troppo sincero. Allora, malato cosa vuol dire? Allora, arte è una specializzazione, quindi tu hai una conoscenza di un'arte e quando applichi quella conoscenza dell'arte estrai una carta extra. Ma arte inteso artistica o parte della guerra? Scegli. Però non ti vale in combattimento, ti vale beh, solo se uno ti fa una domanda. Di... Vabbè, ho capito. Che altro ti ho detto? Malato. Malato è un difetto. E... Mm. Sei malato, è una malattia incurabile che tieni a bada prendendo medicina ogni settimana e ogni settimana tu devi ricordarti di comprarle e prenderle, se no... Facciamo un bel ciao all'otto di cuori. Dopodiché le altre cos'erano? Scelgo l'altra malattia, troppa sincerità. Allora, troppo sincero è un difetto. E... Che gioco stronzo? Ogni tanto, cioè diciamo che in generale tu fai fatica a dire a dire bugie, mm-hmm, e tendi a dire sempre la verità. E ovviamente puoi provare a mentire, puoi fare una prova, però è più difficile. Quindi, quindi segno arte, sì, come specializzazione. Ah, ok, insieme a schivare per stare. Esatto. Metto arte poi? Poi hai messo troppo sincero. E lo metto nei difetti? È un difetto, sì. E perché ci sono 5 puntini? Perché puoi averne più di uno. E... Ah no, i puntini di fianco. È perché il difetto potrebbe aggravarsi. Se tipo tu non prendi medicine potrebbe diventare più grave, eccetera, eccetera. Però troppo... diciamo che essendo una one shot è difficile che malattia... No, che la sincerità, per esempio... Aumenti gravi, esatto. E che altro hai? Lingua straniera. Sai parlare una lingua straniera, è un vantaggio. Una lingua straniera umana è tua scelta. La metto nelle specializzazioni? E io non ho presente come la scheda perché non ho mai giocato da giocatore a questo gioco. Ma la metto male i vantaggi? Puoi metterla come specializzazione, sì. O come annotazione, per peculiarità e vantaggi. Ah, c'è peculiarità e vantaggi. Sì, dove le altre razze hanno scritto, che ne so, vista notturna e quelle cose lì, l'umano non ha nulla, come terri. Ah, sì, certo. Sì, scusate, ma io la scheda non la conosco, la so solo perché la gente mi dice che fa schifo. Vabbè, il nome lo dici poi con calma. Difesa, vigore, vicino, lontano. Ah, esatto, allora. Questo ah, va bene, questo è il primo punto. Questo immagino. Tutti possono metterselo. Aspetta. Adesso mi fa la diretta. Nel senso che non mi dà proprio opzione. Perché? È un modo interessante. Perché mi dico che non c'è la... Movimento, ti muovi del punteggio di fuga e il punteggio di fuga rappresenta i metri che metterai. Le difese, tu hai 1 in difesa vicina e 5 in difesa lontana e il punteggio di vigore nella difesa vigore. Ma tutti hanno 1 o 5 solo altri? Tutti, però a seconda della razza anche, mi sa. Tipo il migo credo che abbia il carapace, sterminate qua. Sì. Beh, io non ho il carapace. Incantesimi e vocazioni non ne hai perché non sei un folle né un officiante. E basta, l'equipaggiamento non hai niente perché sei un poveraccio. Cosa sono, scusa? Poveraccio. Chi è il prossimo che fa la scheda? Vabbè, vado io, dai. Faccio anch'io l'umano alla fine. Così facciamo un po' di razzismo verso... Verso Vez e Katta. Ma io... Umano e nome? Cos'è quello di futuro? Ivan. Io sono. No, sono in realtà fa molto più schifo. Ivan Nicolai cioè, Bergiuschi. Non è un. Vabbè, te l'ho scritto. Tutti i tentacoli fucosi. Che ruolo? Ma tipo David Jones. Attivista. Era orrenda. Secondo me tu non hai capito bene com'è la tua razza. Ho visto le foto, ho visto delle immagini. Ok. Scusami, Giulio. Attivista. Bolscevico. Vabbè, non mi sono attaccare a internet. Tu versi stai mettendo con un attivista bolscevico, eh? Allora ti dico, Tulu non dà fastidio se tu sei un attivista bolscevico. L'importante è che tu adori Tulu stesso. Sì, ma io ritengo che debba essere creato il paradiso comunista sotto Tulu. Visto che il compagno Stalin si è dimostrato inadatto. Puoi vivere da Dio in... Punto, sei dimostrato inadatto. Allora, specializzazioni. Tu hai due specializzazioni anche tu. Motivare la folla. Motivare la folla. Mi deve dirla così. Però vero sai, bro. Diciamo, parlare a una folla, usare slogan. E sei molto bravo a far capire alle folle che cosa pensare. Vai con la rivoluzione. Ecco, l'audio in genere. E quell'altra è darsi la gambe. Sì. Come contatti tu hai diversi attivisti e un politico locale in carriera. Quindi abbiamo dei ganci politici. Allora, cosa devo mettere? Diversi attivisti e politico in carriera. Un politico locale in carriera, sì. Grazie, un goccio birra, preferisci coca? No, proprio una birra, grazie. Da finire, poi ce ne sono altri. Allora. Si chiama Bertinotti il mio politico lontano. Salla posso farti una domanda in effetti allora. E, per farlo da no aspetta un attimo, cioè io ora ho messo in teoria avrei messo il microfono dalla porta USB, anche se oggi ho letto le migliori frasi dell'ultimo che cosa di come faccio a dire che c'è il microfono? Il libro di Battista. Probabilmente nelle impostazioni c'è il microfono. No, sono le migliori frasi perché il foglio... Impostazioni suono. La scritta. Ah, non lo so. Penso. Giulio, devi fare anche tu come arte. Fai quattro carte e scegli tre. Yeah. Il foglio sta postando una frase. Allora, il 6 di fiori. Internal me, ecco. Non mi... sei di fiori, giocatore patologico. Ce l'ho, posto. Jack di quadri. Vai. Jack di quadri. Allora facciamo una prova. Intanto... Jack di... No, scusa. Donna di quadri. Fortunato. Non di faccia. E donna di fiori. E donna di fiori. Topo di biblioteca. Allora. Io. ti dico già che cucinare... Cucinare è una specializzazione e puoi avere una carta extra appunto nel cucinare. Fortunato è una specialità. E ogni volta che ti faccio fare un tiro di destino, che è un tiro particolare, tipo il tiro di D&D quando devi sapere se stai per morire o continui a vivere, e hai una carta extra. Che altro hai? Il giocatore patologico è un difetto. E ovviamente è legato al gioco d'azzardo. E l'altra? Le carte posso rimetterle via, vero Sala? Del tutto? Topo di biblioteca. No, con il track estratto. No. Puoi rimischiarle. Sì. Dopo vi spiego anche. Allora, topo di biblioteca. Topo di biblioteca. È una specializzazione, sei abituato a leggere velocemente riviste, libri eccetera, a trovare le cose nei libri e è una carta extra quando... quindi di queste tre, di queste quattro devo scartare. Ma devono deve esserci un difetto e... no te ne sbatti. Vabbè, allora prendo fortunato, cucinare, topo in biblioteca. Non si sente niente. Mm? Non si sente niente. Cucinare è una specializzazione, giusto? Sì. Fortunato è una specialità. Ah, è quello. E la biblioteca anche è una specializzazione. funziona, non so perché. Anche tu hai le caratteristiche tipo quelle di Arci da assegnare, come ti pare. Meno che non si acceso, ah, forse perché non l'ho acceso. Capo. Allora, io pensavo di fare il Dagoniano, mm-hmm. Con l'ex lavoro, quello che rianimava i cadaveri, mm-hmm. che è andato in rovina perché i Gaul hanno cominciato a mangiarsi tutti i cadaveri, quindi non c'era più materia. Hai fatto bene a non fare i Gaul. Comunque, se vi interessa, adesso i ghoul comprano i cadaveri. Cioè, è facile che se uno di voi muore, in funerale, eccetera, magari dopo qualche settimana arriva un ghoul e vi dice potete vendermi il vostro ex socio morto che abbiamo... Okay. Usiamo come carne. Lo serviamo al Mac Ghoul. Ok. Ti pesco le carte? No. Hai visto che tu hai disidratazione, respirare sott'acqua, vista notturna e vittima di razzismo. Esatto. Okay. Sai già cosa fanno? Sì. Beh, c'è scritto di fianco nella scheda. Perfetto. Tutorologia fa la male dal cazzo. Dipende. Allora, rianimatore. Rianimatore ha specializzazione in medicina. Mm-hmm. E quindi medicina, appunto, ferite, curare e anche diagnosticare alcune malattie, eccetera. Mm-hmm. E l'altra specializzazione importante è rianimazione, che vuol dire che tu sai come fare il siero per rianimare i cadaveri. Che non riesco a... No, secondo me è un po' basso, però lo proviamo. Hai due contatti, uno è un dottore dell'ospedale, ok, e uno è un professore di medicina. Ok. Allora, tu puoi mettere i punti caratteristica, ma devi ricordarti che non puoi mettere meno di 4 in vigore. Mm-hmm. Che non puoi mettere più di 3 in intelletto. Mm-hmm. Capito come la merda. Se ti interessa medicina e soprattutto manualità. Ok. 1 e 3. Tu hai messo 5. A questo punto estrai una carta e non hai possibilità di scelta. Bene, che io farò 3 di quadri, visto che ho un motivo per la folla. 3 di quadri o re di quadri? Re. Ho messo 3 comunque, se c'è un caso. Io ho messo l'1 in manualità. Metto 5 in intervento. Per il topo in biblioteca. Cosa fa questo? 4 in socialità. Allora, la storia dell'umanità è una specializzazione. Mm-hmm. E conosce tutto ciò che riguarda la storia degli esseri umani prima che esplodesse tutto. La sala del punteggio di difesa di vigore, metto il punteggio di vigore esattamente quello che ho messo io. Sì. Non più 1, più 2, cosa strana. Accortezza cos'è, scusa? Intelligence. È tipo stealth. Non so, ok, non sono... allora metterò 1 in accortezza, non so proprio fare stealth. E decidiamo il nome dell'agenzia. Anzi, qua non è una gran mossa, perché è un'agenzia investigativa, uno che non sa... Tu hai un'agenzia? Io non so come mi chiamo. Che nome hanno i Migo? Allora, i Migo... Cata hai delle domande? In quant'è vigore e la difesa vicino o lontano? Vigore? È vicino 1 e lontano 5. Ok. No! È morta la tilapia di mio padre. Urca enorme. Sì. Cosa, scusa? Cosa è successo, scusa? È il cuscio di mio padre. Sei triste perché è morto oppure perché tu piragna non se ne punto un terribile. Da quanto l'aveva? Sono quasi 7 anni. Sì, era. Più o meno dura così, no? No, è che mio padre è un coglione. Perché? Perché non cambia l'acqua. Cambia l'acqua quando sta per morire. Così almeno è morto con la coppia. Allora, Beth, senti questa storia. Allora, i Migo, che sono la mia razza preferita tra le altre cose. Sì, non saprei. Vabbè. 700 ne pesava. Non saprei bene il perché, ma dimmi. Monica, sono fighissimi i Migo. Almeno in realtà sono fighissimi sia su Lovecraft, sia su questa versione qua, che è molto diversa da come è nei miti, però vabbè. cioè è diversa, è un po', vabbè. Comunque, i Migo sono alieni che provengono da Plutone. Mm-hmm. E vengono chiamati funghi di Yugot, Migo, oppure gamberetti se sei un razzista del cazzo. Hanno dei tentacoli sulla bocca, ma non sembra, cioè non sono tanto gamberetti. No, gamberetti sulla bocca. Hai tipo dei cessi, dei tentacoli, sì. Non sono neanche tentacoli, è tipo, cioè sì, sono tentacoli, ma non li puoi muovere, capito? Comico, non so esattamente. Cioè non è tattile il tentacolo che hai, è tipo come se fosse una sorta di cervello. Da cui si dipanano dei tentacoli che però non ti possono, non puoi usare per afferrare cose, eccetera. Sono no, quello ok, d'accordo. Ok. Hai tre chele. Sì, ma io questo è prima, no, è semplicemente quello che so. Tre chele. No, scusa, due chele. Ah, ok. Perché tre ce l'hanno solo quelli volanti, ma tu non hai un... Allora, hai due chele che utilizzi per fare come se fossero mani. Quindi lo devo mettere nelle armi. Esatto, c'è già scritto sulla scheda in teoria. Sì, l'avevo letto. Vabbè, hai 8 zampe. Va bene. Ma sui nomi qualcosa si sa qualcosa? Dai, sì, facciamo. I Migo hanno dei nomi che sono nomi di Plutone. Di Plutone. Cioè, sono nomi conosciuti dall'essere umano, quindi te lo puoi inventare, ma anche no. L'altra cosa interessante di Migo è che i Migo ora sono integrati al 100% nella città. Sì, capisco. Loro vogliono integrarsi anche, e quindi fanno delle cose assurde, perché loro sono, i Migo sono una specie che è abbastanza, in genere, abbastanza intelligente, però in questo caso è come se sentisse il bisogno di adattarsi, per cui ha fatto un sacco di cose per essere umano. Per esempio, i Migo sono, cioè, fanno di tutto per adattarsi, non possono mangiare né bere, però non è raro che un Migo entri in un ristorante e ordini da mangiare. Così, per farsi accettare. Esatto. O sembrare figo. L'altra cosa che hanno i Migo è che, allora, alcuni Migo hanno tipo fondato una sorta di mafia, si chiama Migo Mafia. Migo Mafia. Sì, poi c'è un gruppo molto famoso di Migo che sono musicisti. E per il resto, se no, sono come persone normali. Allora, comunicano tra loro cambiando il colore della testa. Mm-hmm. E possono comunicare con gli altri esseri viventi simulando col carapace una voce. Sì, ho letto che diventa molto fastidioso da sentire. Esatto, per quello non sono molto accettati, perché anche perché sono un cazzo. La mia carriera di avvocato è terminata. Sono brutti al cazzo, ma anche perché la voce è fastidiosa. L'altra cosa che possono fare i Migo, se sono molto ricchi, è farsi tipo gli Edgar abiti. Cioè, comprano la pelle di un essere umano e la indossano. E sembrano umani, tranne la voce. Non ho capito. Sembrano umani, ok. Cioè, è presente Men in Black? Sì, più o meno. L'Edgar abito. No, quello no, non mi ricordo. C'è tizio, il cattivo che veste un essere umano. Ok, sì, ho capito. Sì, sì, no, infatti lo diceva che c'era la pelle umana. Però sono robe molto costose. Sì, sì, lo immagino. Va bene. Okay, allora, detto questo, hai tutte le capacità che sono scritte lì. E... che altro? Tu sei avvocato. Allora, mi devi dire un nome, quindi può essere un nome italiano, un nome umano. Adesso me lo invento, però scusa, c'hai qualche nome, esempio di nome? Andrea Giacomo Vecchi. No, nel senso, qualche nome Migu lì non c'è nella cosa di Abba. No, ma loro si danno un nome umano, è come i cinesi che quando vengono qua fanno finta di avere un nome. Ok, ci sta. Adesso ci penso e te lo dico. Tanto, come funziona? Allora, tu sei un... Rola avvocato. Allora, sì. Avvocato. Allora, intanto avvocato, come specializzazione hai legge? Allora, questo... sei avvocato? Sono avvocato, certo. Allora, specializzazione legge nel... devo scrivere qua. No, ho cambiato. Se ero umano facevo il giornalista. Non metterò un... tu... Vabbè, ho messo legge. Invece i granchi sono avvocati. Legge, sì. Che ha appunto tutto ciò che concerne il sistema giuridico. Consulile. Sì. E persuadere. Persuadere. Quattro non lo so, uno, ricordati che persuadere può essere usato anche nei, cioè viene usato nei tiri di socialità, visto che tu hai una carta negativa in quanto amico, cioè nulla, esatto, non so, 4 in socialità e 5 in non capito, contatti, altri avvocati e un giudice. No. Anche percezione, non ho visto dove avevo i contatti. No, sono tante persone. Non c'è. C'è un problema. Tu non puoi mettere più di 3 in socialità. Ah, nelle caratteristiche. Scusate, io sto facendo altro. Me lo rispieghi velocemente. Hai dei numeri da inserire come in Dungeon World. Uno, 3, 5. 3, 5, 2, 3, 4, 3, 4. Cioè, li puoi mescolare come vuoi. Metterli. Ok, non posso mettere in socialità più di 3. Esatto, e non puoi mettere meno di 4 in intelletto. 5, 2, 4, 2, 2, 1 e gli altri 3. Puoi estrarre una carta? Se Vez mette 1000 in intelletto, non lo voglio cambiare. Allora, aspetta. Devo estrarre una... Aspetta, fammi mischiare che l'ho messo in... Ah no, qui c'era anche la mia carta. Aspetta, tolgo la carta. Arrivo. Ecco, yeah. Ok, ma queste caratteristiche... Vabbè, ok, sì, più o meno capisco cosa possono servire. Tulogia, va bene. Fai una carta. Adesso te la tiro un attimo che mischio. Va bene, tiriamo fuori una carta. Un bel 2. Di? 2 di quadri. Questi sono i difetti che ti rendono ancora più inutile del normale? Vieni far male. Beh, quindi penso di averceli comunque i default. Raga, che sto per... Qualcuno sa sparare. Questo per un avvocato te lo farei quasi ritirare perché è un po' imbarazzante. Cos'è? Ladro. Analfabeta. Semi analfabeta. È un buon avvocato, direi. Sì. Minchia. Vabbè. Io credo che lui è innocente. No, il problema non è nel parlare, il problema è solo nel leggere il testo. Ah! Vabbè. Secondo questo articolo della Costituzione, quindi immagino di intelletto non posso mettere 5, tipo una roba così. Ma di intelletto puoi mettere quanto ti pare, però come difetto è semi analfabeta, quindi se dovrai leggere qualcosa ovviamente avrai una carta negativa. Può scartare una carta, quella è la scarta, no? Sì, è un mago, deve tirare una carta sola. Vai. Quindi semi analfabeta, c'è una carta? Sì, vabbè, però ha un sacco di vantaggi. Di razza. Sì. Tipo se dà una chelata ti stupra. Sì, non lo vedo molto utile in tribunale. Ma sì, lo so più. Giudice! Quindi a leggere, cioè non so leggere praticamente. No, cioè tu sai leggere, però non tanto bene. Ma può essere applicata sta cosa a quello umano, tipo... Ne ho messo 3. Ah, giusto. Ovviamente 4 e 5. Nel senso che magari tipo il mio linguaggio lo so leggere, però tipo quello umano no. Sul 4? Tanto il tuo linguaggio non ci sarà qua, te lo dico. Appunto, dico. Cioè, io ho studiato nel mio linguaggio, però quello umano non so un cazzo. Cioè, nel senso, non è che non sai, cioè, non lo sai leggere bene. Quindi, se c'è una prova di lettura, ti potrei far tirare fuori 2 carte e scegliere la negativa. Cioè, non è che sei proprio un analfabeta. Quasi. Ditemi un... il... Ah, ma basta, non devo tirare altri difetti. No, il nome dell'agenzia. Gli analfabeti. Ma questa carta la devo lasciare fuori o la devo rimettere? No. Ci sta che ci sia un errore ortografico nel nome. Scegliamolo così. Ecco, teniamo presente che gli altri sono chiamati qualcosa in investigazioni, quindi facciamo qualcosa di un po' diverso. Mm-hmm. Investigazioni. Investigazioni e basta. Abbiamo già Titans and Dragons. Qualcosa service. Non serve. Fottetevi. Aspetta che lancio qualche audio. Cosa vuol dire? Che l'audio facciamo partire, questo non ho capito. E il tasto home. Grande agenzia per la parità dei diritti dei lavoratori. Però l'acronimo. Vediamo cosa agenzia vi... alla cazzo. Allora, mentre pensate... Ma tu hai il cartaceo, Salla? Come? Tu hai il cartaceo? Sì, sì. Non c'è digi, cioè non so dove sia il PDF. Ah, l'hai comprato proprio? Sì, a Lucca. No, è figo il manuale, c'è anche... No, è genio. È carino, è illustrato bene, ci sono... Aspetta, se trovo... Ci sono dei disegni. Cioè, è fatto bene. Parità di diritti lavoratori. Ma non fate scegliere le robe a Giulio, attivista, attivista per... Stati in service. No, no, sta... Io potrei averlo scelto perché pensavo di farti un piacere. Anche perché essendo un gioco italiano è difficile che ci sia un manuale in internet. No, l'ho cercato, non lo so. A parte che non credo neanche ci sia la versione PDF. Ci sarà, ma non la vendo. Così bello per i valori nutrizionali. Si testicoli di topo. È fatto molto bene. È strano. Complimenti a... Vabbè, comunque. Dai, decidiamo il nome. È italiano? Sì, sono due italiani. Dai, decidiamo sto nome per l'invenzione. Allora, no, vabbè, mentre pensate al nome non mi interessa. Vi spiego bene come funziona. Allora, voi siete dei poveracci. Non avete niente, non possedete nulla. Tranne i vostri vestiti. E una casa. Lo Stato di dirigenti sovietici. Lo Stato vi dà $300 per iniziare la vostra attività. Reddito di cittadinanza? Ah, no. Quanti? 300. Vabbè, allora, è l'America degli anni 30. Più o meno i prezzi sono quelli, più o meno. Quindi è tanto, in realtà. Sì, non sono pochi, però vanno via in fretta, è per quello che la parte gestionale è divertente. Come prima cosa dovreste prendere un affitto. Ci sono le testa? No. Allora li segno solamente Betzka il capo. Adesso rega. Vabbè, li scrivo qui sulla scheda dell'agenzia. Sì, ma scriveteli su un foglio, perché adesso io vi dirò delle cose che voi dovrete comprare. Ah, finito... Perché non c'è più il tappino che era qui? Perché l'ha lanciato via, Giulio. No, Arci. Sì, è qua. Ah, concentratevi. Vi farò una roba tipo televendita. Ok. Vi elenco delle cose che potrebbero servirvi. Stamina piano perché ci sono delle mine sparse in questa stanza. E voi dite... Sì, uomo di mattina. Ah, ok. E voi mi dite se le comprate o no. Ok. Ricordatevi che a fine mese, no, a fine mese, scusate, ho detto una cazzata. Oggi è lunedì. Sì. Venerdì voi dovrete pagare l'affitto, il conto della luce, telefono, tutti i servizi che avete comprato, più lo stipendio a ognuno di voi di $50. Una one shot. C'è niente. Lo so. Quello stipendio di ognuno di voi di $50 non sono soldi che vi entrano, ma sono soldi che voi poi userete nelle vostre spese al di fuori, tipo se avete famiglia, l'affitto della vostra casa, e ste menate qua. Scusa, dormiamo in agenzia. Detto questo, dovete dirmi che tipo di sede volete prendere per l'agenzia. Se volete una dimensione grande, piccola, media. Vi dico che quella piccola costa $100 a settimana. Quella grande $400, quella media 200. Quella grande non ve la potete permettere. Cioè, stiamo comprando, scusa, la dimensione del nostro locale. Medio o piccolo possiamo scegliere. Boh, ma che ora piccolo. Mi pare piccolo. Sì, sì. Ci danno, piccolo quanto è piccolo? È tipo un monolocale con bagno. Vabbè, ci si abita tranquillamente. Questo qua. Mi dovreste dire in che quartiere lo volete la sede. Se in un quartiere di merda, proprio lo schifo pezzenti, oppure un quartiere normale o un quartiere benestante. Facciamo piccolo in un quartiere figo, dai. Allora, ti dico già che l'affitto in un quartiere figo costa un incremento di $100. Quello in un quartiere ma normale, 50. E quello in un quartiere di merda, proprio lo schifo, la feccia, niente. Andiamo della merda. Dai, ma che schifo. Basso fondo, vicino. Proprio non ci pagano lì, magari. Non ci arriva il cliente grosso, dici, perché ha paura. Ma sono ancora piccoli, dobbiamo prima farci un nome. Vabbè, prima di guadagnare. Tu c'hai queste cose qua. Per ora aspettiamo un attimo a vedere quali sono le altre spese, no? Cioè, questa è obbligatoria. No, lo so, però tipo, se sappiamo le altre, possiamo sapere se le abbiamo 50. Io farei piccola e in una zona normale, dai. O dobbiamo decidere subito senza sapere le altre. Vabbè, dai, facciamo un piccolo. Le altre spese potrebbero essere l'elettricità, l'acqua corrente. Sì, ma queste sono tipo obbligatorie queste cose. In teoria sì, però potete anche non prenderle e poi pagarne le conseguenze in gioco. Devo fare tipo i fissi, vediamo, cioè poi questa cosa qua è una cosa variabile, tra virgolette, no? Sì. Cioè tipo acqua e elettricità le dobbiamo prendere, penso, soprattutto elettricità. No, soprattutto acqua. Perché sennò tu muori, so. Ma perché sei un cazzo di pesce, penso. Allora. Come fai a girare? L'acqua e la sede avete detto piccola, medio, grande, piccola. La sede è piccola, dobbiamo decidere dove. Piccola, per il riscaldamento, l'acqua e l'elettricità, pagate $10 a settimana. Prendi il sala, comprati il gelato. Piccola nel medio. Allora, si chiama... Ebreo basta. Nabab service. Nabab è proprio poco, no? Nabab... proprio service Nabob al contrario, come scherzo. Boba, no, più piccola nel quartiere medio, più riscaldamento eccetera, vi rimangono $140 ancora. La metà, se no, se fosse nel piccolo quanto ci rimarrebbe? Cioè nello sobborgaccio schifoso, vi rimarrebbero $50 in più. Okay. Che su un totale di 300 non sono pochi. Come gli riesce bene la parte dell'ebreo? Abacuc. Questo gioco è bellissimo perché i soldi non ci sono. Però, e quindi allo stesso tempo voi vorreste essere tirchi. Però spesso è spendere durante l'indagine ti porta vantaggi perché magari corrompi qualcuno, eccetera. E quindi è spettacolare perché c'è tutta questa parte qua che voi non farete, però è bellissimo. 10 dollari di utenze? Sì. Più dovreste metterci una linea telefonica, tipo. Qua, utenze. Sì, forza. Sì. Quindi sono altri $5. Un wifi c'è? Negli anni 30, no. Scusami. Paghiamo. Vabbè, esiste, lo inventiamo noi. I 10 dollari sono luce e gas. I 10 dollari sono luce, gas e riscaldamento. Cioè acqua, scusa. Che serie TV ci sono? Spionaggio. Cioè spionaggio, cose investigative. Grazie, se no non finiamo più sta roba. No, adesso mi metto lì. No, voglio dare il titolo così faccio parte. Ah, ecco che gentili. Allora, volete assicurare i vostri beni? Che beni abbiamo esattamente? In caso di furto? A casa, cioè l'agenzia abbiamo. In caso di furto? Cioè ci può essere rubata l'agenzia da Cthulhu? Vabbè, non credo che ci darebbe nessuno qualcosa. No, ma per ora no, dai. Potete comprare una porta rinforzata, una cassaforte, roba del genere? Non c'è nulla per questo. Vabbè, adesso vediamo. Cos'altro che altre spese possibili ci sono? Allora, io vi potrei consigliare. Ci sono degli abiti un po' più ricchi di quelle merde che indossate adesso. E, altre cose che potrebbero esservi utili sono i quotidiani. Mm-hmm. C'è un giornale ogni giorno che vi arriva a casa, un abbonamento. Awesome. Oppure anche la radio, che costa un bel po' però. E, che altro? tutto quello che potresti usare durante l'investigazione, tipo la canne mozza, un cilapompa, un bazooka, sì, una granata, se volete, però non credo che ve lo possiate permettere. Due Ingram, tre AK, qualche arma. Allora, diciamo che una pistola, un revolver tipo calibro 38 costa $100. Ah, quindi non possiamo prometterci nessuna arma mai. No, mai no. Però. Una però nel una. Se no c'è la Derringer da borsetta, pistolina con la nana, che costa 75. L'abbiamo usato un revolver, non c'è? Aspetta, abbiamo detto che noi abbiamo adesso luce, no. Cose, utenze varie, poi il telefono. Il telefono. Prendiamo i giornali. Cioè, secondo me il giornale... Ci abbiamo la manica di sfigati, cioè, comunque. Siamo no, però i giornali se li pieghi sono anche delle armi. Giornali. 4. È di solito i giornali. Vabbè, però cioè, alla fine la puoi benissimo, cioè, se ti serve, comprare e paghi qualche centesimo. Vabbè, quanto costa? Di armi, quello che potreste prendere sono armi da mischia, magari, tipo un coltello, un manganello, un macete, una mazza baseball, queste cose qua. Io leggo da una lista, non è che mi sta inventando cose. Immagino quattro investigatori privati con un macete sulle spalle. La baseball non costerà niente, dai. La compri? Quanto costa? Per te ti faccio un prezzo speciale, $8. Con le mazze da baseball ce le possiamo permettere. Ah, io poi tanto non mi serve perché non posso usarla. Adesso ve lo dico, però se voi vi presentate sì, ma io poi soprattutto non posso usarla. Cioè, quello che vorreste usare è girare con tutti con una mazza da baseball. Esatto, puntare qualcosa di più in tasca. Beh, vabbè, uno te la c'è sempre dietro. Se l'altro la no, aspetta, sta facendo la sua serie Vigilante. No, vabbè, nel senso, cioè che altro però potrebbe servire? Sì. Prenditi quei coltelli che si aprono. Voi avete solo nel vostro monolocale dell'agenzia c'è una scritta in ottone del vostro nome e poi dentro c'è una seggiola e una scrivania. Volete comprare qualcos'altro, tipo un'altra seggiola, un tavolo, una sedia a testa, magari una vasca da bagno. Una vasca da bagno, sì, ci sono. Vado a stare con la testa nel cesso. No, ma il bagno c'è, scusa. Il bagno c'è. C'è il bagno, non c'è la vasca. C'è il bagno, c'è il lavandino. Sarà una doccetta. No. Se vuoi, però, te la puoi comprare. Quanto costa una doccia? Doccia. $10 a doccia, raga, cazzo, dice chiamiamoci sardina a fare. Adesso dobbiamo vivere lì, ma noi non abbiamo una casa. Sì, voi avete anche una casa. Raga, vendiamo la casa, pagate con i $50 che prendete di stipendio. Ok, io vivo nell'agenzia. Lo stipendio devi prendere comunque. Un kit da pronto soccorso? Ecco, adesso ci arriviamo. Intanto, allora. Quindi niente in giornali? No, prendi per tenerci informati. Ok, prendiamo l'abbonamento ai giornali. Quanto costa? Quanto costa, esatto? Ci costa $20, no? Allora, $4 a settimana. Ah, 4 per parlare. Cioè, secondo me è più bello. Okay. Ma tu bevi la Coca-Cola Light? Sopra che qua? Solo perché? Perché l'avevo comprato in animale. Beh, quindi non è bella visto che c'è la caffeina, di, non dormo, di costi fissi siamo a $169. Sì, allora, devi metterci $200 di stipendio anche. Puoi farlo, se no non risparmio. Dunque, quello che puoi comprare è un set per disinfettare le ferite, o un set di primo soccorso, oppure anche un set chirurgico per ferite più gravi, ma non te lo puoi permettere, te lo dico già. E altre cose che puoi comprare è gli ingredienti per creare il siero per rianimare. Mm-hmm. anche se vuoi, se preferisci, acquistare direttamente il siero. Salam, l'agenzia è di Vets e noi ci siamo tipo con lui o l'abbiamo creata insieme? Sì, ce l'avete creata insieme, però diciamo via inizio al progetto. Quindi di fatto sì, 300 associati lo Stato a tutti. Qual è la differenza tra agenti e associati? Sì, cioè ho detto voglio fare sì, sto cercando. Teoria, non vi servirà stasera, però il gioco prevede che ognuno di voi abbia un associato, cioè un altro personaggio che gli altri giocatori prendono, perché visto che qua si muore facile. Ah, ok. E le ferite si curano lentissime. Allora, se un giocatore va a puttane, il giocatore giocherà l'associato. E questo viene a costare $100 all'agenzia, tra l'altro. No, ma c'è qualche cosa che si può dire a parte investigazione? Se... diciamo così, prendiamo 4 coltelli. Quanto costano? Costano $5 l'uno. Investigazione va bene. Ma scusa, Vezzano non può usare i coltelli, forse meglio 3. Tre sì, coltelli. Io non mi serve. Quindi $15. Vabbè, facciamo investigations, che va bene, che suona bene, è un po' diverso. Investigations and fish. Catta di cure? Fish e investigation. Per due torce. Tu non sei? Torce. Un gancio, tipo. Pure investigation and gibbon. Torce elettrica? Così potremmo chiamarla. Possibilmente. Un altro nome. $8 per due. Vai, allora la cosa, la serie la chiamiamo Investigations and Chips, se io va bene. Serie, la puntata. E... no, la puntata si chiama Invito a cena con Bollito. Vabbè, perché muoiono pezzi in carta. Sono molto fiero di questo. Di questo titolo. E che altro volete? Un fucile a canne mozze? Ah, per scrivere dei mozze $300 dei fogli. Oh, è buona, raga, veniamo all'agenzia e quelle sono dei fogli e delle penne, cancelleria varie, quindi ha una penna stilografica o una, se no una macchina da scrivere quanto costa? Come so scrivere? $40. No, devi scegliere tra queste Heineken. Allora, fogli e penne normali, non stilografiche, ma anche matite, anzi, fai matite. E una penna serve, però. Ogni taccuino e matita costano 50 centesimi. È più amaro. Vita cena con Bollito. Ah, facciamo due taccuini con matite, un dollaro. Forti, no. Okay. 9 forti. 7 ok, che altro? Volete farvi pubblicità? Via radio, su quotidiano, cartelloni? Possiamo affittare gli omarini che vanno in giro con i cartelli appesi al collo? Potreste se aveste i soldi. Ah, quelli costano. Ma quanto ci è rimasto per quello? No, però costano $20 se volete. Beh, noi in verità per ora abbiamo speso $24 perché a fine settimana dobbiamo... No, no, pagare. No, li dovete dare subito quelli. Ah, sì? Okay. Abbiamo ancora $100 in abbondanti. Sui giornali invece? Pubblicità sui giornali? Avete preso i giornali? Ah, la pubblicità sui giornali costa $10. Fai quella proprio una settimana. Ok. Quella ci serve. Allora, faccio partire tanto l'audio. Ok. Catta per i cure varie? Il kit del pronto soccorso quanto costa? $50, 5 usi. Però, quindi $10 un uso. Però si vende solo in blocchi di 5 usi. Puoi anche comprare, vi dico che sta roba potete anche comprarla dopo. Però se siete in azione e qualcuno sta per morire, ovviamente chiamare l'ambulanza. Mentre la pozione per restare uno? Gli ingredienti costano $50. E invece comprare la pozione già fatta? Quello di merda costa 60, quello buono 80, quello ottimo 100. Mm-hmm. Va bene. Cata, ti dico anche un'altra cosa. Se tu chiami il tuo contatto, il medico, da dove? Magari per una volta un favore te lo può fare, curare qualcuno. Allora, siamo in diretta con quello che abbiamo chiamato come Investigations and Chips. È il nome dell'agenzia? No, il nome dell'agenzia lo possiamo anche scegliere dopo. Però questo è il nome della serie o miniserie one shot. Giocheremo ad Alba di Cthulhu, di cui io personalmente non ho idea delle regole, eccetera, ma credo anche altre, a parte Katta, che non ha fatto niente oggi se non studiarsi le regole, e Giulio, forse, che ha sognato di fare... Ha sognato le regole, perché nessuno di loro le aveva. È vero, ma Katta ha i suoi metodi. Sì, Katta ha già proposto delle modifiche agli autori. In questo momento stiamo costruendo la nostra agenzia investigativa. Si gioca nel mondo di Cthulhu, dove... La città di... Ecco, dammi la pronuncia corretta. Rille. Così, cioè molto tipo maccheronico. Il butto quasi... di francese. Sembra... No, quello se lo so sarebbe Rille. Nella città di... Dove siamo? La nazione? Rille. Non è una nazione, oh, è sì, una isola. In mezzo. Mi sì. Però è molto grande. Ma la geografia non è quella del mondo. Sì, la... sì. È un'isola nel Pacifico, è riemersa quando è arrivato tu. Sì, ma è un'isola che mi piace, allora c'è passata, mi piace. Esatto, e, no, è emersa questa città qui con Cthulhu come capo, che è un grosso polipo gigante. Presidente, dio, sindaco e capo del Partito Democratico. E e a questo punto niente, si è creata questa specie di mix di razze tra umani e pesci e calamari e gente che mangia gli umani, ma nessuno sembra disturbare questo. Anzi, gli umani dicono: "No, non vuole un pezzo di assassino". Non è che vanno a cacciarli, mangiano umani già morti. E quindi niente, allora praticamente siamo tutti in realtà della gente senza un soldo, e questo non cambia rispetto alle altre campagne che facciamo, non cambia assolutamente nulla. Beh, però una gente è questo leggermente diverso. E, il mio personaggio, il cui nome vi dirò tra poco, è un Migo, quindi una specie di, come dire, un calamaro però brutto con delle ali. Ce le ha le ali qua? No, sì, non ce le ha, le ali. Qua non ce le ha? Però posso dire. Le ali ce le hanno solo i Migo selvatici, non quelli che sono ambientati. Selvatici, inteso selvaggi più che, cioè quelli non ambientati. Ad ogni modo, il mio personaggio, pur non essendo selvatico, è comunque semi-analfabeta, ma nonostante questo, è stato un avvocato, ma a un certo punto lo studio ha detto: sì, ma un avvocato semi-analfabeta non ha molto senso, prendiamone degli altri, quindi mi hanno cacciato. Allora ho pensato bene di fare un'agenzia investigativa. Capite già che il mio personaggio ha una serie di associazioni proprio geniali. Prendiamo degli altri di analfabeti e ha scelto lui. E ha detto, esatto, prendiamo altri analfabeti come me. E quindi niente, ha scelto altri personaggi, potete presentarvi. Io nessuno ai nomi. Io sì. Allora parte Giulio. Va bene. Che cosa? Sì? Io sono Ivan Nikolai Berzuschi. Tu il russo. Serio? E niente, vivevo felice nell'Unione Sovietica come tutti. Sì, perché ricordiamo che l'ambientazione è quella degli anni 30, ma è l'America, cioè praticamente Rile è dentro l'America adesso, o l'America no. Allora l'isola è emersa nel Pacifico, cioè in mezzo al Pacifico. E quindi è stato cominciato... stato degli Stati Uniti, giusto? No, allora la città è cresciuta, è più a sud, tipo Sud America. La città è cresciuta molto in fretta, soprattutto perché non c'è stato bisogno di costruire più di tanto, perché Cthulhu ha portato molti edifici, palazzi già esistenti sull'isola. Grande Cthulhu. È facile che voi troviate tipo un Empire State Building, tipo una Torre Eiffel. Ma qua perché lui li ha presi da quel, cioè nel senso sì, che quelli reali, Giusto. Allora, il clima non risente in alcun modo di essere a sud nell'Oceano Pacifico, perché il clima è a sé proprio, a meno che in qualche giorno piovano rane, ma per il resto è deciso da Cthulhu. Siamo nel 40. Sì, allora in realtà gli anni non si contano più così, perché gli anni sono dall'ascesa di Cthulhu, per cui... Si contano sulle dita di una chela. Sono passati 14 anni dall'ascesa di Cthulhu. Sì, più o meno sì. Tu vai, tu vuoi fare così, paura. Niente, io sono... Che l'hanno vero. Una volta avevo il pizzetto, però poi a un certo punto sto pensando troppo. Sono nato in Russia alcuni anni prima della rivoluzione. Ma sembra di fargli vedere più avanti. Ho capito. sono entrato nel partito appena ho potuto. Quindi ho 2x2, giusto? E ho iniziato a diffondere il verbo del compagno Stalin. Ma poi non ho capito se lo sta diffondendo adesso, perché lo sta diffondendo. Faccio notare che Giulio fa l'attivista, ormai è finito a fare l'attivista politico, l'attivista comunista sui giochi di ruolo, cioè lo è talmente nella realtà che lo fa come gioco di ruolo. Ma in realtà sì, non lo faccio più nella realtà. E appunto, allora andiamo a dare io? No, aspetta, non è che perché tu lo spara due cazzate, allora sa te. Niente, però dopo sono finito nei casini e nel mirino di una delle purghe. E quindi sono scappato, perché il compagno Stalin ha tradito i valori del socialismo. Ah, ovviamente l'Unione Sovietica è sopravvissuta alla comparsa dei grandi antichi come un congregato di città-stato. Boh, sì, tanto non ci ascolta... Ovviamente. Non si ascolta né Matteo Cortini né Leonardo Moretti, quindi possiamo dire che cazzo vogliamo. Beh, tanto, non c'è, visto che loro non hanno scritto nulla sulla cosa. Ma forse c'è un'espansione che non ho comprato, no, non è vero. Questi cazzi. E niente, sono dovuto scappare per evitare una purga. E mi sono rifugiato da Cthulhu, perché l'ho individuato come il prossimo presidentissimo e colui che potrà realizzare il paradiso socialista. Scusa, ti interrompo solo un attimo, Giulio. Salla, da livello tecnico, il cerchietto di fianco alla caratteristica, che cosa simboleggia? È quando l'hai usato, secondo me. No, è come no, in... no, assolutamente no. Allora... Non si... State bombottando? A fine di farci il proclama imperiale, per ancora. Allora, dicevo, scusate. Vale. Allora, quando le meccaniche del gioco sono abbastanza semplici, fai una prova, estrai una carta, mi dici che cos'è e il seme che è, di solito si somma una caratteristica, io ti dico se hai fallito o no. Il 2 è il punteggio più basso, fino al 10. Re, donna, jack e asso fanno delle cose particolari, tipo Star Wars. L'asso è un successo, più una cosa positiva. La donna è un 1, adesso non mi ricordo più un cazzo. Non importa. Quello che volevo dire in tutto questo è che il jack è la carta più brutta che possiate prendere, perché sia un 1 sia una cosa negativa. Quando fallite una prova, segnate la casella della caratteristica che avete fallito. Alla fine di ogni sessione, poi questa è una one shot, però non finiremo stasera, e prendete tutti un punto esperienza a prescindere da quello che avete fatto. Quel punto esperienza può essere... Dobbiamo segnalarla, ok. Stiamo sempre scegliendo i giochi in cui... Sì. Quel punto esperienza può essere speso solo per aumentare una caratteristica di cui avete fallito. Cioè, su cui avete fallito. Ok. Dobbiamo fallire in vigore. No, se ve lo stesse chiedendo, il master sarà Salla, che forse sentirete a un livello un po' basso, però ci proviamo. Torna pure a... Dicevamo... Spezzeremo... Che sono scappato... dai Gulag. Com'è che si chiama? Gulag. La città? Rile? Gulag. Sono scappato a Rile. sia per sfuggire alla purga, sia perché ha individuato in Cthulhu il probabile prossimo presidente che possa far avverare il paradiso socialista. Rilè sarà. Giulio ha fatto un background. In quanto non ha la debolezza dell'umanità che il compagno Stalin ha dimostrato. Cthulhu? L'uomo di ferro un paio di palle. Scusate. Allora, l'asso è la carta più figa. 10 è cosa positiva. Il re è 10 e cosa negativa. La donna è 1 e cosa positiva. Il jack è la peggiore, 1 e cosa negativa. Minchia. Quindi meglio un 10 di una donna. Ah, il jolly, quando lo pescate, potete decidere di tenerlo o di utilizzarlo subito. Quando utilizzato, vale come un asso. E a fine sessione perdete i jack che avete accumulato. L'asso vale come massimo, cioè 10 e cosa positiva? Cosa, è tipo un critico. Ok, posto. Ok, fatemi gli altri personaggi al volo, così poi cominciamo. Okay. Io sono Figi, la D è muta. Potrei continuare. No, aspetta, tu non l'aveva mica finito. Avete il culo. Figi sì. Non è scritto, scusa. Avete il culo? L'hai detto? D apostrofo, F apostrofo. I lunga, I. I come lunga. V apostrofo. Raggio. Aie. Sei, primo o secondo? V. Umagalli. Diciamo che te lo scrivo, va bene. Vabbè, mi fido. Dai, un pesce. Chiamalo Branzino. Ho iniziato come rianimatore per poi riportare in vita i morti durante gli svariati rituali prima dell'avvenimento di questa stupenda nuova era. E, solo che appunto con l'inserimento anche dei Gaul nella società e l'avvento dei consumi di massa, purtroppo i cadaveri sono diventati una risorsa preziosa e scarseggiante. Altro che petrolio, petrolieri. E quindi adesso mi devo reinventare come investigatore utilizzando le mie conoscenze di medicina e del corpo umano per aiutare nelle indagini. Vai, Arci. Vuoi dire Bud? Io sono Bud. Vuoi dire Bud? Una guardia del corpo che ha lavorato per diversi nobili. Tuttavia... Nobili? Cioè nobili, gente benestante che... Schiavisti! No, no, potrebbero essere anche nobili. Ah, osservo dei padroni, complimenti! Potrebbero anche essere nobili, se vuoi. Nobili nel senso ricchi. Ok. Mi è crashato. No, sei crashato tu. E tu che sei crashato? Non credo proprio. Quindi ce l'ha, dicevi, Bud? Sei stato il mio firewall, che non so perché a un certo punto ci sto di chiedere. Cosa stavo dicendo? Alla fine mi sono messo a lavorare con loro. Con Vez. Dove la mia frase, ma tu sei un granchio di merda, è stata presa con sincerità, ma anche lui l'ha apprezzata. Perché non l'ha capita. Perché non sapeva come si scrivesse. Boh, tutto parlo. Che tu gliela scrivevi in realtà, non gliela dicevi mai, gliela scrivi sempre. E se adesso abbiamo un rapporto di fiducia, io e Vez, che io lo chiamo Sebastian, e... e quindi lavoriamo insieme. Ok. E Vez? Io però ho fatto all'inizio la mia... Cosa ho toccato? Il computer. Ok, posto. L'ho già fatto. Vezzo, io sono... No, Vez, mi devi dire una roba. Ti ho comunicato non per il tuo cazzo, mi devi dire il titolo, il nome dell'agenzia. Ah, ok. Allora, che ne dite di Crab Investigation? Ok. SpongeBob e Crab. Bello SpongeBob investigativo, però è un po' spoiler. No, facciamo, boh, che ne dite, crab? No, cosa, no, se no che idea avete? Pizzenti. Sushi investigation. Tempura investigations, bello. No, mi piace. Dai, devo fare tempura. Tempura investigations. Sono un po' capitalista. E c'è chi ci scambia ovviamente per un sushi bar. Che è un modo per attirare clienti. Aspetta, io so cucinare. Vabbè, top. Perché non abbiamo aperto un ristorante? Ok, allora. È una bella giornata, Surile. Ah, il mio nome è Drake Warwick. Chi? Merda. Sai come si scrive? No. Come sempre in piacere fa il suono. Un sacco di timbre. Ma ovviamente non è il mio nome vero, è il mio nome da pseudo umano, che non è umano assolutamente. Da schiavo. Come ti chiami, Beth? Drake. Ache. Warwick. Brache, tu pensi. Cioè. Frankenstein. Io scrivo Drake, scritto D-R-A-K. Ok. Warwick. È un lunedì. Lunedì. Come tre mattine? Poveri. Aspetta, due cose tecniche prima di iniziare. Cosa devo mettere in difesa? Ah, devo mettere vigore e vicino e lontano cosa cambia? No, lui è un granchio di merda, ha le carapace. Gli punteggi da granchio. Ah, no, ce l'ho qua, ci penso io. Scusa. Vicino e lontano, non capisco cosa. Ah, perché 1 e 5, 1 e 1 e l'altro è 5. No. Domani abbiamo 1 e 5, vicino 1 e lontano 5. Tu però che sei un ragno. Grazie. Vabbè, ci guardo, scusate. Ragosta. Vabbè, lunedì? Va bene. E avevi detto, scusa Salla, che io potevo mettere in socialità 3 solo, giusto? Massimo 3. E in intelletto minimo 4, giusto? Sì. Va bene, ci siamo. E quando uno colpisce usa la mira, cioè anche da vicino. E poi dipende, può anche usare vigore. Ah, ok, vabbè, a posto. Allora, dicevo, è lunedì 1 del mese 2. E voi avete appena, oggi è il primo giorno di apertura dell'agenzia. E voi vi trovate davanti alla vostra sede con la scritta, dico il giorno prima del giorno di chiusura, con la scritta in ottone che dice so. Tempura investigation. Non l'ho comprata. Investigation. Ok, con la scritta in ottone tempura investigation, e siete tutti e quattro lì davanti perché abbiamo appena, cioè stiamo entrando per il primo giorno. Sì. No. Basta Maria, io ci conosciamo già non tra di noi, vero? Sì, abbiamo sì. Sì. Ok, brava, bene. Quindi tu ti chiami? Figi. Bud. L'hai preso, l'hai visto qua la ok, va bene. Ivan, va bene. Ci no, sta. È anche perché ha fatto un personaggio che è tipo Bud Spencer, ma molto veloce. Come ti chiami di cognome invece? Berejuski. Quindi vorresti che io ti chiamassi signor Berejuski? No, Ivan va bene. Signor Berejuski. Tovarish lei, Ivan. Lei signor Bud Spencer, immagino. No, Tovarish Ivan preferisco. Bud Fumagalli, che mio padre è italiano. Vero Fumagalli. Signor Fumagalli e signor Figi. E basta. La D è muto. Scrive il cognome. Quale D? Ah, è tipo ungherese. Anche il mio Bud, perché ha due D, ma l'ultima è muta. Ah, ok, grazie, sì. Signor Pumagalli. Berejuski, va bene. Beh, direi di stabilire. Chi è che prende le prime telefonate? Io. Tu non puoi prendere il telefono? qualcuno mi metta vicino il telefono. Che non puoi scrivere gli appunti. In realtà Vez è il più... Vabbè, allora... Sconsiglio di far rispondere a Vez, visto che ha la vocina tipo robot. No, infatti. Allora, il signor Berejuski si occuperà di prendere le telefonate. Il signor... Meglio fare lui. Vuoi mettere un pesce? No, il signor Brzezinski si occuperà di prendere le tue soldi. No, lui avrà un chiaro accento russo, ma non è un, ma non credo che sia così grosso. Vuoi mettere un pesce a rispondere al telefono? Ah, ma tu parli, no. Tu parli col culo, che cosa fai? Io vibro, tipo, ha una voce tipo super... Quindi non parli la voce. Ho una voce super monotona e fastidiosa a sentirsi. Come in realtà? Quindi il signor Brzezinski si occuperà di prendere le telefonate. Il signor Fumagalli farà tutto quello che richiede una certa prestanza fisica, e invece il signor Figi sta in bagno, occupa il bagno, cercherà di non morire per l'ossigeno. Vado a farmi una doccia. No, comprato. In realtà anche il signor Figi è parecchio grosso. Compriamo una doccia a 10 dollari. Fatevi vedere le vostre razze, giusto così. Sono nel gruppo? Allora, dipende un po' che le cose caratteristiche. Ok, abbiamo 87 dollari. Comunque sì, è quello che ha il telefono è il signor Brzezinski. Lingon. Ma è proprio il dollaro o la moneta di Rimini? Sì. Però è un dollaro stampato da Tulo, chi per lui, per cui c'è la sua faccia, non sono il presidente americano. Questo chi è? Grazie. Tuluniano. Dovrebbe essere lo stampato? Sono io quello a te. No, scherzo, quello sul tavolo. Questo è il Golder, immagino. Ho trovato la pistola e catta con lo sperlo. Sì. Questa pezza Ehi, ho un cappello figo. Madonna, catta. È un uomo. Quello non ci passa da un lucernario. È un uomo. Ok. Non ci passa. Non so tiro però. Dicevo, Drinlon. Drinlon sarebbe per dire il telefono o il campanello. Il campanello? Vendiamolo subito. No. È una rana il campanello. Vado ad aprire la porta. Apri la porta e trovi, non vedi nessuno fuori, ma vedi il giornale su davanti all'entrata. Piango perché credevo che fosse un cliente. Faccio perché? Ok. Chi è che spende soldi per questo giornale? Piero di parole leggi. Questa merda. E poi guardate, si spezza con facilità. Guarda il giornale, lo lancio sulla scrivania. Lancio sulla scrivania dicendo: dov'è il topo di biblioteca? Sono spese qua. Qua? Passo il giornale. Oh, grazie. Non è Pravda, ma si fa quel che si può. No, è via giornale. No, guarda, è scritto così. Io sto. Il topo di biblioteca. Ok. Leggi il giornale, dicevo. E mentre aspetto telefonate, leggo il giornale. Sì, lascia che parli in russo tutta la serata, però. Sì, non... vedi. Ok, vabbè. Allora, il giornale non c'è niente di speciale, solite notizie, morti misteriosi, alcuni morti sul Tentaculus. Ah, questo non ve l'ho spiegato. Allora, i mezzi di trasporto... Che ammazza tutti il tenta, quella roba lì. Come, scusa? Il tentactubus è quello che ammazza la gente che lo prende, vero? Cioè se li mangia. Allora, diciamo che non c'è, in questa città non c'è l'autobus, ma per spostarsi in macchina non è molto piacevole, perché spesso ci sono delle distorsioni, degli spazi non euclidei, e quindi si rischia di finire in altre dimensioni e magari non saper tornare indietro. Per cui solo i tassisti sanno guidare bene. Ovviamente potresti anche comprare una macchina, però... Sì. Saperlo. Detto questo, costa troppo per voi. Detto questo, però poteva essere l'ultimo. Ma tanto un no, metodo veloce e sicuro per muoversi è appunto il Tentaculus. Un biglietto costa $1 e vi può portare in tutta la città. Il Tentaculus è una sorta di fusione tra un autobus, un treno e una roba di tentacoli. L'inconveniente è che a volte il Tentaculus mangia i clienti. Beh, ci sta pagando $1. Diciamo che quando appena l'hanno fabbricato la gente non voleva salirci, poi si sono accorti che alla fine conveniva perché ti portava dove volevi tu. Ho preso il paradiso. Quindi, e alla fine non mangia sempre, mangia solo a volte. Ma tutti i clienti o solo gente a casa? Cioè tutti quelli che sono in quel momento sul No, mangia a volte un tentacolo, potrebbe prendere una persona e poi fargli fare un giro speciale, diciamo. Butti la vecchietta che è di fianco? Sì, potrebbe andare bene, non si sa. Dipende, cioè... Un mondo così di disperati che sono disposti a rischiare di morire e poi di non andare a piedi? Beh, non è tanto frequente che la gente muoia, però diciamo che anche quello ha fame. Ci sta. Però ho scritto sul mio nome, devo fare qualcos'altro. No, il ruolo... Non ho capito bene, perché ancora non è chiaro. Il ruolo, Salla, è il ruolo che abbiamo nell'agenzia o il ruolo che abbiamo... Che avevate prima. Allora potevamo scriverlo. No, in verità noi siamo agenti, non siamo associati. Sì, siamo associati. No, siete agenti, associati sono i vostri personaggi di riserva che non avete perché è una one shot. Scusate. Vabbè, puoi metterli sopra. Allora, dicevo, sul giornale non c'è niente di speciale. Riesci a trovare a pagina 7... un annuncio piccolo con scritto Tempura Investigazioni. Risolviamo i vostri problemi. Noi paghiamo $10 al mese, poi questo? Questa merda? Spagnolo, sto tratto. Dove sei? Sei americano? Mio padre era italiano, magari. Mia madre era ispanica, latina. È andato come Bud, perché era la birra preferita. Sta mia madre è un'alcolizzata, io sono nato con un'alcolica fecale. Vediamo se può avere senso. Per cosa mi va a dire? No. È lapsus. Comunque siete lì che aspettate e perdete tempo. Verso le 12:30 arriva una chiamata. Pronto, Tempura Investigation. Salve, comunque vorrei 3 Tiger Roll, 2 Tempura e mi porti anche quelle robe strane che fate col riso, non ho ben capito, riso... Che indirizzo? E l'indirizzo è via Roma 82. Ok, arrivando veloci che qua abbiamo fame. Sì, va bene, arriveranno tra tipo un paio di ore. Coltelli, torce, doccia. Abbiamo doccia nel bagno. Salve, noi non siamo tipo caotici malvagi, noi, no? Cosa vuol dire? Cioè, abbiamo l'opportunità di portare queste fantomatiche Tiger Roll in un appartamento, entrare, fare la zia e rubare i soldi. Quello che troviamo? Sì, puoi farlo. Sì, se poi però lui vi denuncia... Comunque siamo legali, cioè. Okay. Metti sul telefono e investigatore privato. Dopo un paio di minuti comincia a suonare di nuovo. Pronto, Tempura Investigation. E salve, siete voi gli investigatori? Sì, da. E senta, è una questione delicata, posso venire lì da voi a parlarne? Certo, quando vuoi. Ok, guardando intorno vedi che la tua agenzia è uno schifo. Te lo dico. Cioè, tipo casa mia. Beh, io comincio a raglio a pulire soprattutto in una maniera più... Ok, allora se per voi va bene verrei tra una mezz'ora. Mezz'ora va bene. Chieda il nome, signor Berzuschi. Chi devo assegnare in agenda? E segni Conte Menten. E Conte? Menten. Ok. Quindi non abbiamo scopo e stracci dentro? Sì, l'avremo. Non li avete comprati? Salla. Puoi usare il giornale. Prendo un foglio di giornale. Prendo un foglio di giornale inutile e comincio a pulire. Quanti soldi abbiamo ancora? 87. Vabbè, andiamo a comprarli. Prima quanto arriva? Mezz'ora. Mezz'ora. A meno che non trovi traffico. No, però possiamo comprare qualcosa da offrirgli, tipo da bere. Ci sarà un negozio lì di fianco. Sarà un pacchi. potete dividervi, magari qualcuno pulisce e intanto gli altri vanno a comprare. Tu che sei russo, non hai tipo nel DNA la cosa di pulire? Perché dovrei... magari, magari pesce pulisce, lui mangia merda. Ma che ora è del giorno, scusa? Le 12.32. Dipende cosa mi buttare nell'acqua. Siamo ormai alle 12.33. Salla, Katta, essendo comunque una specie di mezzo scienziato, gode del rispetto dello scienziato o prevale il razzismo verso la sua razza? Io sono uno scienziato, godo del rispetto dello scienziato, no. Scienziato? No, sei un medico, un rianimatore. Un animatore di villaggi turistici. Saluto il tizio, metto giù e dico, tra mezz'ora uno sporco nobile di merda verrà niente, e anche che paga. Comunque sporco nobile di merda rimane. Beh, non più sporco della nostra agenzia, quindi. E lui è sporco dentro, l'agenzia fuori. Va bene, cerchiamo di rendere. L'agenzia anche dentro. Cerchiamo di rendere quanto più presentabile questo posto. Se tu branzino caghi dove c'è. Cioè, anche il bagno. Io vado a pulire anche un po' il bagno. Ma non abbiamo niente per pulire, hai detto. Salla. E non l'avete comprato. Per capire o comprare. Però il bagno sarà legato alla carta igienica. Non possiamo pensare che abbiamo un bagno. La igienica sì, ma c'è anche i vostri taccuini, c'è il giornale, c'è un sacco di roba. Sulla carta igienica pulisco quello che so pulire. Vabbè, ma andiamo al negozio, una scopa, uno straccio. Beh, non abbiamo tanto tempo però, signor Berezhushki. Vabbè, cioè, lo accogli e gli dici scusa, abbiamo aperto oggi. Quello sì. Così lui capirà che abbiamo una grande esperienza. Ma tanto c'è scritto sul giornale, cioè... Abbiamo scritto che è la nostra prima esperienza. Scritto per... Boh, non so, c'è scritto... Vuol dire che abbiamo aperto oggi qua. Andiamo, offriamogli un calice di vino, magari. Compriamo una bottiglia vino costa, prendi due stalattini. Preparo io. Tu compra qualcosa, preparo io. Mezz'ora ci penso. Bene, vado a un fire stasera. Tu prendi carne, io faccio zuppa Bosch. E boh. Va bene, vai. Andiamo. Allora, vai con signor Figi, vada con signor Berezhushki a comprare qualcosa da bere, magari un vino di media qualità, e se vuole fare qualcosa da mangiare molto veloce, perché no, in fondo è l'ora di pranzo. E io so cucinare, tranquillo. Io e lei invece, signor Fumagalli, ci occuperemo di rendere quanto più ordinato, se non... Se non pulito questo posto. Ma quello che dice in realtà è tipo noi, signor Fumagalli, ci occuperemo di... La voce qua odiosa e... illimitato. Ma non ha senso. Ah, quindi Max parla così? Sì, io parlo così. Vabbè, no, io parlo. Parla tipo robot in realtà. Sai rispondere al telefono? Adesso parlo in modo monotono. Ok, allora io vado con pesce a prendere roba. Lo so, per un italiano è difficile. Sì, signor Berezhushki, vada pure. Ma la mano, so. Ah, no. Qual è il budget? Qual è il budget di spesa? $2? Ma... Anche 7, dai. Sbocciamo, facciamo 2,50. Beh, no, ci abbiamo bisogno di prendere... comprare. Cercate di non spendere più di $10-15. Ok, prendo uva e faccio io vino. Non c'è problema. Ok, andate giù. E allora, voi due che siete su, mi fate un tiro di manualità. Io ho due. Oh, io ho uno, brutto. Come uno? Io ho uno. Ma non hai detto che bisogna fare due? Si può mettere uno. Cioè, un 1. No, uno devi metterlo. Ah, cazzo. E da dove è uscito? Devi mettere un 5, 2, 4. Un 1, 2, 2, 3. Quindi, no, quindi allora li ho tutti scazzati, perché ho fatto quelli di Katta. Un 1. Un 5. Sì. 2, 4. Sì. 2, 2. Sì. E tutti gli altri 3. Ah, quindi si vede che ho... Ah no, 3. Devo girare solo una carta? Tu oggi pulisci il bagno, devi girare una carta e vedere e dirmi il risultato. Certo. Vai, allora ci sta tra che io quadri. Più? Ah, più il numero di manualità che ho. Più uno. 4. 4. Non la rimischi quella, va giù. Rimischiate le carte solo quando pescate l'asso di picche. Mira uno, dai. Quindi questa la metto via. Esatto. E non mischi le carte. No, e la cosa una cosa interessante è che se voi avete pescato tante carte negative, potete in un certo senso contare le carte, quindi essere un po' più figli oppure contrario. Ok, quindi il bagno va bene. Beth? Va male il bagno. Arrivo. Cosa ho pulito? Pisciandoci in giro? Che non avevo detersivo. Dai, ok, in sua manualità ho due. Tiro fuori una carta? Speriamo che non abbia bisogno del bagno. 5 di cuori. Più manualità. Più manualità, 7. Ok, allora a un certo punto esce dal bagno. Bad. E dice: tutto pulito, perfetto, lindo. E Bud, quando apri la porta, dopo... io ho la faccia, io ho gli occhi, cioè, se sono sincero, esco dal bagno chiedendo aiuto. Poi, tu arrivi, no. Arrivi e dici: ho dato il meglio di me. Molto, e vedi che in effetti la sala, ma io ho sincerità, quindi dire il bagno è pulito, no, tu dici: ho fatto il possibile. Esci da tipo 20, dopo tipo 25 minuti, una cosa del genere. Ci stai lì molto, a pulire. Molto bene, signor Fumagalli. E la sala in effetti mi sembra abbastanza pulita. Che cosa? La sala, in effetti, cioè la stanza, in effetti mi sembra abbastanza pulita. Meglio del bagno, sicuro. Ok, gli altri che vanno a fare la spesa? Giulio e... Scendete. No. E le brode. A casa c'è il vostro supermercatino di fiducia. Compriamo una scopa, uno straccio. Ma tanto ormai l'abbiamo già pulito. Cioè, hai capito? Cosa da mangiare. Per il bagno comunque servirà, non lo so, ma servirà. Investimento, dai. Ricordiamoci poi tutte le scope, quelle robe lì sono armi improprie, comunque. Ok, scopa straccio, poi? E poi cosa prendiamo? Una bottiglia di vodka, ok, cioè, quello sempre. Cioè, ti ho detto vino e tu prendi la vodka. Okay. Del succo d'uva, mischi, hai la graduazione che vuoi. No, vabbè, quanto costa il vino? Ok, allora, scopa straccio da mangiare? Da mangiare... Come si chiamano le alghe che si mangiano da giapponese? Alghe. Sì, quelle. Hanno un nome. Alghe. Non hanno un nome. Giapponese. Sì, avranno una specie, ma non è questo il punto. Alga. Nori, alga nori. Quelle. Percezione è più un osservare o... Anche un ascoltare, secondo me. Ma abbiamo, tipo Perception ha detto, come in Star Wars. Allora, okay. Abbiamo una sorta di cucina nell'agenzia, no? No. Non c'è il gas? Cioè c'è il riscaldamento? Il gas c'è del riscaldamento. C'è anche l'allaccio se vuoi comprare un fornelletto, però non c'è. Ok, faremo un altro. Okay. E quindi delle alghe e poi? No, che cazzo per le alghe? Sono buone. Dice. Allora prendiamo dei crostini. I pesci mangiano pesci. Gli alghi mangiano solamente deficienti, tra cui l'uomo. Esatto, più o meno sì. Che ci stanno affogando. È brutto da dire, ma è vero. È perché sicuramente costano poco. Io puntavo al risparmio. Ok, alghi, poi scusami, cosa... Cazzo, non abbiamo una cucina. Sei tu che ti sei buttato. Prendiamo qualcosa di già fatto. Boh, prendiamo, dai, del pane, dell'affettato. Cosa. Ok. E magari del vino. Necessario per fare della maionese fatta in casa. Ok. Scusa. Buona. Allora, l'insalata russa e delle verdure. Faccio dell'insalata russa. Cazzo, ok, per il cibo e il per il cibo e il, la scopa e lo straccio ti chiede $3. Abbiamo anche delle posate comunque per cui mangiare questa roba. Posate. Dei piatti, magari. Vabbè. Per un set di posate, eccetera, $1. Okay. Quindi $4. Ok, ora veniamo alla parte fastidiosa, il vino. Allora, c'è un vino di merda, proprio lo schifo dello schifo. Aspetta, bicchieri? Tutto $1. È tutto compreso? Sì. Okay. C'è un vino che è lo schifo dello schifo, ma lo schifo è proprio schifo. Oppure c'è un vino buono, normale. Oppure un vino veramente figo. Quello normale? $10. Quanto costa la vodka liscia? $3. Prendiamo vodka. Ok. Scrivo vino uguale vodka. Non è ovviamente una vodka super buona, però. Ok. Quindi ritornate in agenzia e trovate la sala in effetti abbastanza pulita. Wow, bel lavoro. Grazie, signor Figi. Beh, io andrò a rilassarmi in bagno. Perché in bagno quando puoi andare benissimo? Dove? Ma ha fatto un ottimo lavoro. Tu entri in bagno e in effetti te lo ricordavi più pulito. Vabbè, ci do una passata anch'io. Ok. Adesso mentre cominci a dare una passata, senti il campanello che suona. Io intanto volevi preparare, sì. Tira. Comunque ho socialità 7, quindi vado ad aprire la porta. Devo pescare per cucina? Sì. Quanto devo? Scegli la migliore. Un jolly? Che puoi tenere. Quindi posso scegliere il 9 e tenermi il jolly? No, puoi tenere il jolly e estrarre un'altra carta invece che il jolly. E okay. Tenere sempre il 9 fuori. Ah, ok, quindi adesso pesco un'altra carta. Esatto, oppure usi il jolly e in quel caso è un osso. Ma posso decidere per scappare? Sì. Il jack. Abbiamo detto che il jack è a cagare, Quindi okay. Immagino che tu scelga il 9. 9 più manualità. No, 2. 11. Ok. Insomma, ti sembra di aver fatto un buon lavoro. Cosa sta facendo Giulio, scusa? Sta cucinando. Ok. Ma io lo caccio via adesso. Lo tieni in mano. Ok. Cioè lo tieni fuori. E poi quando al prossimo tiro, prima di estrarre, puoi decidere di usarlo. Ma mi rimane se non lo uso. Fino alla fine della sessione, sì. Ok. Ok, dicevi Arci, vai ad aprire. Bud. Ti trovi davanti un ometto, non troppo alto, magrolino, vestito parecchio bene. Buongiorno signore, benvenuta. Piacere. Guarda intorno tipo un po' scosso e fa... Ok, non mi immaginavo fosse così, ma questa è l'agenzia Tempura Investigation. Faccio sì, però... Però no. Facendo i lavori, allora, sì, dico per motivi professionali cerchiamo di tenere un profilo basso e in realtà comunque l'esperienza è tantissima. Ah, bene. Dovrei parlare, posso entrare? Certo, prego, si accomodi pure. Apro la porta, cioè sposto la cosa, faccio entrare, gli indico la sedia. Che è davanti alla scrivania. Si avvicina, vede che c'è una sedia sola, ti guarda. Ah, più sedi. Avevo detto prendiamo una sedia a testa. Ah, allora devi togliere. No, ma siamo andati in un ristorante e siamo usciti con le sedie. Mentre che avevi portato. Devi togliere $8. Per sedia? No, per 4 segni. Ah, okay. Beh, scusami. Gli 30. Che ne so io? Prendete, scusa, 5 quanto costano? Ma ne avete 5, perché una è già lì. Ah, ok, posto. Cioè, oddio, io ho fatto, cioè, ho pensato che ne voleste 5 in totale, però se ne volete 6. Sì, sì. Ovviamente ne avete 5. Magico questo qua. Si siede, si guarda intorno. Bene, chi con chi posso parlare? Intanto chiudo la porta a chiave così. Salve, sì, salve, sì. Vabbè, io parlo in modo monotono, ma vabbè. Io intanto arrivo. Ah, vero. Desidera un po' di qualcosa da mangiare? Un po' di insalata russa? Sì, un po' di... Sì. Non mi basta. Beh, salve, signor Conte, guardi, abbiamo... E magari più tardi, grazie. È vero, normalmente Katta non è, è un po' nell'ombra, invece qui è quello che si vede meglio. Colpa mia, scusate. Dicevi Vez? Sta laggando di nuovo, Salla un po'. Sì, mi è ancora colpa mia. Vabbè, chiama un attimo. Sarkozy. No, c'è un lato. Sarkozy non è presidente. Beh, così potrei qui sul lato. Sarkozy ha perso anche primarie di destra francese. Hollande come ha messo? Sta sul campo di Hollande fuori, sì. Ma negli anni 30 chi è questa gente, scusa se okay. Forse voleva dire. Forse avete un caso stasera. Forse stasera arrivate al morto. Cioè, volevo dire, dai. No, cos'è? Assaggia la vostra roba lui? No, ha detto magari più tardi, grazie. Arriviamo subito a morto. Esatto. E allora, con chi posso parlare? Parli pure apertamente, siamo tutti associati. Tu parla con Gambero, io vado a mettere via insalata. Okay. Mi dica pure, signor Conte. A parte il tutti quanti, per curiosità, come si è messo quel punteggio di socialità? Io 4. 3. Anch'io 3, cazzo. Minchia, tutti e quattro avete. No, io e Katta abbiamo fatto. Vabbè, parli con me. Dunque, io. Dunque, oggi è il mio compleanno. Tanti auguri. Grazie. Dobbiamo brindare allora. Grande festa. E quindi stasera volevo dare una festa. E per cui la settimana scorsa ho mandato gli inviti ai miei più cari amici, solo che mi è arrivata questa lettera ieri l'altro, e fa vedere un foglio di carta e lo porge a Vez. io intervengo e lo prendo prima che... Allora io intanto penso che lo provo a pigliare e lo taglio, immagino, per chi non lo sapesse. O lo riesco a... semi analfabeta, lo riesco a prendere? Ma esci dal locale se tu lo prendi come un deficiente, cioè, capisci che tu sei scemo. No, ma lo riesco, cioè, riesco a prendere o si taglia? No, puoi prendere, cioè tu sei abituato a maneggiare gli oggetti di uso comune. Non potresti masturbarlo. E va bene, lo prendo e provo a leggerlo. Tira con svantaggio. No, dai, intelletto, due tiri, due carte. Ora un 4 e altro un 10. La difficoltà è 9. Allora, niente. Allora mi sa che ho... Ah no. Aspetta, intelletto ho 5, quindi 4 più 5 è 9. Ok, riesci a leggere? C'è scritto. Sei molto fiero di te. Alla faccia vostra. Ah, dico, beh, mi piace anche... Ma sì! No, non capisco! No, ve ne porga un'altra! No, lui non lo fa, in realtà fa così e la testa cambia colore, tipo diventa rossa. Verde, vabbè. E c'è scritto: la sera durante la tua festa di compleanno ti ucciderò, stronzo. Sembra un biglietto poco amichevole. Sì, ecco, e questo però è l'ultimo, perché in realtà me ne sono arrivati altri due con scritto sempre minacce, sei morto, ti ucciderò il primo, eccetera. Domanda, la scrittura è tipo fatta collage oppure è una scrittura? Scritta con una macchina da scrivere. va bene. Ah. Più facile. Non c'è la casta, vabbè, la carta c'è non c'è nessuna cosa particolare, immagino, tipo sì, cioè, ok. Quindi niente, io pensavo di fare lo stesso la festa di compleanno stasera, perché è un'occasione importante, devo festeggiare anche il nuovo regalo che mi hanno fatto. E per cui quante persone hai invitato a questa festa? Ho invitato solo i più cari amici, siamo in 5 in tutto, cioè siamo in 6. Ho 5 ospiti e poi ho il mio servitore. E lei non ha un'idea di qualcuno che possa averla? Assolutamente no, io non ho un'idea. Scusi? Il lavoro? Io non... Lui è un conte! Magari sono mascetti che entrano, mie. No, io sono... È una persona che potrebbe avercela in qualche modo con lei per qualche... Noi tagliato teste, mio paese. Non lo stia ascoltare. È uno strano. È una persona nostalgica. E, dunque, io volevo fare lo stesso a festa, quindi la mia idea era che magari... potreste tenere d'occhio a situazione, magari venite anche voi o uno di voi o non lo so. Sì, posso farle possiamo farle qualche domanda prima per capire un po' la situazione, insomma. Lei ha non ha nessuna idea di qualche persona che potrebbe avercela con lei anche per qualche banalità, insomma, qualche magari. Si figuri. Lei gioca d'azzardo, cose no. Così. Scommette sui cavalli. Ci sono i cavalli, sui tentacoli volanti. No, io, allora, dovete sapere che io faccio il collezionista ormai da tanti anni. Collezionista di cosa? Colleziono oggetti... Colleziono a testa, non capisco. Colleziono oggetti... Oggetti rari, oggetti di una certa importanza storica e anche oggetti legati al culto dei grandi antichi. Ha partecipato a qualche asta recentemente? No. Quindi non è che magari lei può aver comprato togliendo l'oggetto dell'interesse? No, gli ultimi oggetti che ho ottenuto li ho importati. A parte l'oggetto che volevo sfoggiare stasera, che è un pugnale, è un coltello con manico d'osso, molto prezioso. E che ho ottenuto grazie a una mia amica che oltretutto sarà presente alla festa. Scrive in russo, eh? Certo, cirillico. E, capisco, da quanto tempo vanno avanti queste lettere? Più o meno ho mandato l'invito una settimana scorsa e da 2 giorni dopo mi sono arrivate lettere ogni giorno. Mi parli degli invitati, dei suoi amici invitati, che persone sono? Persone altolocate come lei? Allora, ho invitato solo gli amici più cari, ma poi se venite anche stasera li conoscerete personalmente. Sì, ma... Però di loro mi fido ciecamente. No, lo so, però mi dica comunque che tipo, cioè, hanno i suoi stessi interessi. Insomma, sono sporchi nobili oppure gente normale? E come, scusi? Sono nobili o gente... Non dia troppo attenzione al signor Brzezinski, la sua padronanza della lingua è limitata perché si è da poco mosso in questo... Vedi che lui è molto scosso, quindi non presta troppa attenzione. E, no, non, diciamo che c'è... Cos'è la pubblicità? Vendere lingua. Due zenzero limone e un finocchio. Ah, socialista. Abbiamo appena scelto la tisana e Kat ha scelto il finocchio. Allora, ho invitato il signore e la signora Fox, e il signor Fox in particolare è un mio grande amico, è uno storico abbastanza importante, insegna storia al college qui, no beh, non qui vicino, si guarda intorno, college dove siete è una merda. College of Tour. Ah, io sono un appassionato di storia, lo conosco. Lui mi ha dato un sacco di consigli sui pezzi che ho comprato. Le ha dato molti pezzi che lei ha comprato. Capisco. No, consigli sui pezzi che ho comprato. Ok. E poi c'è Loris Smith, che è un mio grande amico, e anche lui vabbè, è abbastanza ricco, dai, possiamo dirlo. e anche lui mi ha venduto alcuni pezzi che ho comprato e della mia collezione. E poi c'è Max, e Max è lì, Max insomma è la persona a cui mi rivolgo se devo fare una spedizione, qualcuno deve spedirmi il materiale. E poi c'è Fanny. Fanny è la ragazza di cui vi parlavo e è quella che mi ha aiutato a comprare questo pugnale. Ma Fanny come divertente? No, seriamente, cioè io non so se non... Fanny... No, credo che sia rilevante in questo momento, signor Berezuski. Ai fini dell'indagine... Non è... A voi capitano spesso queste cose, non so come devo... E terminatorie sono qualcosa di molto comune, ma da non prendere sotto gamba, ecco, signor... Avete sì. Molta esperienza in questo caso. Terminatorie, ma si assalta Palazzo d'Inverno. Come si chiama Conte? Come si chiama lui? Conte Mente. Non è che ci sta? Mente. Sapevo, cazzo. E, Fanny, ragazza che ha dato l'ultimo gesto. Sprecato, sì. Quindi ci vediamo stasera. Conosce tutti da molto tempo. Salla, posso fare un tiro su arte? Arte? Per capire se mi dice qualcosa quel pugnale. Beh, non l'hai visto. No, di nome. Su Cthulhuologia, magari, forse. Magari so che... Tira ti su dico... Cthulhuologia. Parlare. Su cosa? Cthulhuologia. Cthulhuologia. Ah, quindi due carte estraggo la più alta. No, tu ne sai di arte. Ma non è arte questa. Messo da parte. 8 più 2, 10. Non ne ho mai sentito parlare. Cioè, magari se lo vedessi potresti dire qualcosa. Però. Quindi questa la metto via, giusto? Sì, sempre nel tipo scarto. Dato che ha fallito questa prova, la deve segnare. E... Sì, si può dire di sì. Ma anche quella prima di manualità ha fallito. Devi mettere una X sia in manualità che in Cthulhuologia. Ah, queste lettere le stanno arrivando ogni giorno, ha detto il signor Conte. Sì, solo Conte, grazie, fino a oggi. E quindi signor Conte ogni giorno, e le recapita a lei il suo maggiordomo, oppure le ha trovate sotto la porta? O insieme alla posta. Che mi dica invece il suo maggiordomo, come si chiama? Beh, il maggiordomo si chiama Boris. Boris, russo anch'egli? No. Da quanto conosce il signor Boris? Da quando mi sono trasferito qua, saranno ormai 5 anni. Signor Boris è un umano anch'egli? No, è un ghoul. È un ghoul. Il conte è un umano? Sì. Non devo chiedere se gli preoccupa, perché è normale avere un servitore ghoul, immagino, per un conte. Ok. E quindi con Boris ha sempre avuto buoni rapporti o ci sono stato qualche episodio un po' particolare? No, ecco. Ma Boris poi si occupa solo delle sue cose. Insomma, è la servitù. Capisco, ma magari sa, ma può portare poco. Cioè, io non sto, diciamo, dando per scontato nulla, voglio insomma sapere capire un po' qual è la situazione. No, ho sempre ottimi rapporti con Boris. Non dopo, esecuzione. Questo è limone. E c'erano magari altri servitori che ha avuto in passato? Sì, quando abitavo negli Stati Uniti. Ah, ma da quando è a Rilea solo Boris è stato adesso. Capisco. Persone che magari invece potrebbero averla presa male per un suo non invito? No, perché? Beh, magari sa. A vedere zucca. Ci sono persone che magari Non lo so, sto cercando di capire appunto quali sono i suoi rapporti. Cioè, lei normalmente ha già organizzato altre feste di questo tipo, sempre con queste... Sì, con queste persone più o meno tutti gli anni. E c'era anche qualche altra persona che quest'anno non è stata invitata? No, ogni anno mi faccio un regalo e festeggiamo insieme. Capisco. Cioè, lei si fa... devo organizzare le cose, va bene per voi stasera, allora no. Lei, perché scusami se la interrompo, ha una consorte o una moglie? No. È sposato? Ha un'altra compagna? No. Non frequenta nessun tipo di, no, di donna? Di uomo? No. Quindi lei si occupa per lo più di arte, eccetera, capisco. Esatto, sì. L'ultima, sì, quindi mi diceva che però molti tempo fa la sua ultima asta, giusto? La sua asta per partecipare è stato molto tempo fa. E le aste, sì, di solito adesso non vado più alle aste, ma mi faccio procurare qualcosa, gli oggetti dai miei amici. E l'ultimo oggetto che è stato procurare è questo pugnale, giusto? Esatto, sì. E sa se qualcuno lo voleva oltre a lei? Sicuramente, è un oggetto molto prezioso. E che provenienza ha questo pugnale, se posso chiedere? Diciamo che è stato ritrovato di recente, non so bene le circostanze, ma magari chiedete a Fanny, non saprei. Ma ok, cioè lei non sa di, cioè se è legato ai grandi antichi o se Fanny è di un certo sicuramente legato ai grandi antichi, si dice che sia il pugnale che sia stato adoperato durante l'ascesa, durante gli stranioni. Ah, ok. È molto prezioso. Capisco. Sono fortunato a trovare questa sua amica Fanny invece? Se volessimo contattare la sua amica Fanny? Stasera alla festa. Capisco. Ah, una cosa, vi prego, se venite alla festa non date troppo fastidio agli ospiti, cioè lasciateli. No, certo, per questo chiedevo se potevamo parlarvi magari prima, appunto, giusto per sincerarci. Se lei ci lascia un recapito, possiamo provare. Preferisco di no, preferisco che glielo chieda direttamente a lei. Capisco. No, appunto, vabbè, non vuole che la contattiamo prima, insomma. No, non vorrei dare il numero, magari lei non gli piace se do il suo numero. Scusi, questa signora si chiama Fanny? Fanny Peters. Peters, ok. Va bene. Ci ha lasciato già l'indirizzo e tutto, Salla? Sì. Okay. Quartiere ricco, molto ricco. Mm-hmm. Signor Conte, le suggerisco comunque di essere prudente nella giornata, di essere circospetto. Ma sono in casa tutto il giorno. Molto bene, va bene. La festa che ora è? È alle 20. Va bene, cercheremo di essere lì almeno un'ora prima, se per lei non è un problema. No, come preferite. Va bene, ci vediamo. Altre domande voi, collaboratori? Il pagamento. Ah, sì, allora, pagamento. Allora, io gli dico... Diciamo che noi siamo un'agenzia investigativa, però se, dico, e quindi diciamo che ci occupiamo appunto di investigare per le sue minacce e tutto quanto, possiamo anche offrire un servizio di sorveglianza, tipo guardia del corpo, però ovviamente è un prezzo anche aggiuntivo ovviamente. Senti, io vi do $250 adesso e $250 a fine lavoro. Mi sembra una cifra adeguata. Eventuali extra da complicazioni discuteremo, ma direi vicino alla metà di quanto di solito operiamo, ma può andare. Va bene, grazie signor Conte, ci vedremo stasera. Ci vedremo nel nuovo quartiere in cui intanto ti sgancia i soldi, sono paia, ce lo giungo nella nuova sede, intanto ti sgancia i soldi. Oh. E quanto costano dei biglietti d'aereo per andare in una città normale, invece? Questa è una città normale. Il Messico che distanza è da qua? Un po'. Ora abbiamo $323. Perfetto, è un fucile a canne mozze, segna, $23, fucile a canne mozze. Signori, la situazione è abbastanza... Ok, però... mente ne esce, ringrazio e se ne va. Grazie, signor. Non ha mangiato in salata russa. Quella non è la cosa che più mi preoccupa, signor Berezuski. E, dalle piccole cose che capisci. Qualche idea? Chi può voler uccidere un nobile a fare tutto proletariato di Rile? Abbiamo le chiavi del bagno. Lui è pulito dopo che tu hai fatto il casino. Non era quello che chiedevo. No, secondo me ha senso andare alla festa come lui ci ha invitato e vedere se sì, certo, questo è grazie. No, e capire di più dalle dinamiche dei presenti, compreso il maggiordomo. Sì, ma il problema è che l'omicidio è sempre il maggiordomo. No, ok, bene, questo, cioè, o andiamo nei terminatori. Noi $250 già preso. Sì, abbiamo che ora è? Sarà l'una. Giulio. Il problema è che se falliamo gli altri 250 non li vedremo. Che ora è? È l'una qualcosa, non solo questo. Se fallite, la vostra fama ovviamente diminuisce perché siete delle pippe. Cioè perché avete fallito. Signora, dobbiamo lavorare con, diciamo, tu fai sparire i testimoni, nessuno sa che noi falliamo. Alle 7 dobbiamo essere lì. Quanto tempo ci mettiamo a arrivare lì? Dipende con che mezzo di trasporto arrivate. L'unico che possiamo permetterci, immagino. Il Tentaculus. No. Quant'è di qua a piedi, scusami? Da piedi sono, diciamo, un paio d'ore. Il Tentacolo? In mezzo alla scarsa. Vai, prendiamo il Tentacolo. Neanche a piedi, in realtà, potrebbe essere più pericoloso che sul Tentaculus. Invece a nuoto? A nuoto non c'è l'acqua. Dove nuoti i pesci del merda? Va bene che siete un'isola, ma sei mai stato in un'isola? Dobbiamo essere qua per partire e andare dal signor. Quindi non vogliamo comunque prendere armi, cose strane. Nessun problema, io vivo. Possiamo comprare il fornelletto, così posso cucinare. Con i soldi che abbiamo, però cosa possiamo permetterci? Le pistole. Cosa abbiamo noi come arma così al momento? I tre coltelli. E le scope. I tre coltelli. La carta igienica. I giornali. Ma non possiamo permetterci molto lo stesso con quei soldi che abbiamo. Una pistola, però ci vuole bastare. 323. Un revolver. Una pistola in mano al signor. Una pistola. Fumagalli, sì. Forse è la cosa più appropriata. Sì. Ok. Fornelletto e pistola. Perfetto. Signor Fumagalli. Allora, perché no? Dobbiamo mangiare. Quali sono le vostre conoscenze? Abbiamo di sopra. Cioè? Che conoscente avete nella città? Città? Io ho avuto fuori che non mi sono andato, però gestore di un locale famoso, un locale noto di un po' di niente. E magari sono dei ricchi che prendono quella zona. Io conosco Tovaricio, il politico che stava in sede. Magari non te lo dice lui, capito? Magari è una cosa che si vergogna a dire, vado nei. Io conosco un professore di medicina, magari conosce il professore di storia che viene stasera alla festa. Questa è una buona pista. Potrebbe fare una chiamata, signor. Le chiamate sono gratis. No? Le abbiamo già pagate. Sono già pagate. Facciamo due telefonate, Salla. Una al professore di medicina. Allora, signor Fumagalli, lei intanto vada ad acquistare la pistola. Da parte. Il signor Berezuschi gli dia il... Compro una pistola, necessaria. Salla. Un revolver. Ma dopo lui non mi fido. No, signor Berezuschi, lei serve una da 100 immagino. Per fare altre indagini. La 38, calibro 38. Se no cosa c'è? Se no c'è 45, ma cosa 200 e pistolina nana 75. Facciamo 48. Vuoi fare quella da 75? Mi vergogno. No, fai quella da 100. Prendi 100, dai. 100, quindi devi mettere meno 100 e poi devi mettere... È il proiettile. Ah, giusto. $20 di proiettili. Sparo le monete. 20, 40, 60, 80. $120. Ma cosa costano degli abiti adeguati? Ah, è vero, bisogna andare alla festa. $120. O noleggiare gli abiti adeguati. Segnarci che hai, che hai 100 munizioni. Non userai mai. A casa tua usi la mia. No, non ho usato la mia. Qui comunque ci sono. Salla, mi dici, quindi scrivo arma, scrivo calibro 38. Sì, è un revolver calibro 38. Va bene. Signor Berezuschi. È una Smith & Wesson. Danno? Devo scegliere un seme, tanto. Tanto non la usi, non lo scrivi, lo scrivi dopo. Berezuschi, ho bisogno che lei vada a noleggiarci i più economici abiti così, di gala che trova. E la leva indietro. Perché? Abito di Soviet, va bene. Aspetta. credo che non sia. Non la usi adesso stasera. Sono le 11:30. Questo e le sue ideologie. Non credo che sia appropriato alla serata. Tu ammazzi, no? Gittata. Comunque, dove dobbiamo prevenire questo evento, signor Berezuski? Le chiedo quindi di andare a noleggiare 5 quadri, 7 fiori e 8 picche. Cosa, scusami? 3 cuori. Cosa vuol dire 3 cuori? Che se tiri una carta per colpire e fa cuori, fai 3 danni. Cioè, dai cuori, fai 3 danni. Danni, ok. 5 quadri, 7 fiori, 8 picche. Ok, la gittata? 25-50. 25-50. Sì. Yard, chili, metri. Metri. Secondo. Once. Once. Il gioco italiano, la gittata è in metri. Ok. E allora io esco per trovare vestiti per pesce, gambero e due esseri normali. Esatto. Abiti borghesi, diciamo. No, sono noleggiare. Sì, tipo... Daricone schifoso, borghesuccio. No, o no? Sì, la sarà. Gli smoking. Abiti da sera. Ah, gli smoking? Noleggiarli per una sera. Okay. Capito? Sì, sì, no, ho capito. È il prezzo che mi spaventa. Per noleggiarli comunque. È 2 ore? Quanto costa? Sono $30 a testa. Oppure? Vabbè, ma voi non ci siete, quindi... Dai, tu ovviamente hai come mandato quello di spendere il meno possibile. Eh sì, $30 a testa, sono $90 perché io mai metto questa merda. No, caliamo. Cos'è più di più basso? Tipo... Scusi, ma non di cosa clown. No, degli abiti... po' più tipo camicia e un paio di pantaloni. No, dai, bene. Sì, dai, giusto bella presenza. Comunque dobbiamo essere, diciamo, comunque di investigativi, di investigatori, diciamo. Vuoi noleggiare o comprare? Cosa mettere le guardie del corpo? Noleggiare. No, prima dimmi il prezzo, noleggio, poi vediamo. Sono $15 a testa se vuoi noleggiare. Se li vuoi comprare, si li compri? 30. No, noleggia. Ok, noleggiamo 3 abiti. No, rega, se li compri poi li rivendi. No, cioè se... No, nel senso che tra pagarli 15 e poi magari comprarceli 2. Sì, ma sono della, cioè, della merda, tipo una camicia. Cioè, vuol dire, in realtà vuol dire... Camicia, pantaloni, mutande, ci sono. Una camicia firmata, non una camicia... Sì, ma 30 vuol dire tipo essere tipo veramente dei barboni. Vabbè, però una camicia... Cioè, se no come siamo vestiti? Non lo so, come siamo vestiti? Abbiamo delle tipo della una foglia di strida, poveracci, tipo maglietta e jeans. Beh, io avrò l'abito da soviet. Pantaloni, non so se sì, sì, esatto, cioè, nel senso, Vezza è nudo. Sì, sì, sì. Sono vecchissimi jeans. Ma... Che americani. Vezza no, è nudo, no, e invece catta una canotta. C'è un 40-60. Neanche tipo abito da lavoro. Topo stereotipo. Vabbè, non sono jeans, hanno pantalonacci schifosi. Abbiamo per testa. Abbiamo, sì. Abbiamo 250 meno 100, 130 che tale. Abbiamo 203. Quindi in realtà non... 203? Ah, perché abbiamo ancora quelli vecchi. E se no tipo aggiungendo una giacca? Non si può? A testa? Mm. Mettici $5 in più a testa. Per questi. 20. Allora, noi noleggiamo 3 abiti. Ah, noleggiate. Però è comunque già, cioè, comunque abiti, non sono abiti da sera. No, abiti da sera. Se vestiti bene, tipo abiti andare a lavorare, sera. Tipo tu da avvocato ti vestivi così, non è uno smoking, ovviamente. Ah, ok, no, va bene, però comunque già è meno sì, brutto. Sì, è meno barbone. Vedi, sì, sono jeans, 1873. Hai capito? Va bene. Sì, perché non li mette nessuno fino a... Perché andavano di moda, perché dai con tempo. Magari costavano un culo, non so. Merda. Ok. Beh, poi da 20 allora, dai. Beh, noleggiamo 3 abiti. Ah, io mi rifiuto. Signor Berezuski. No, al massimo... Dai, però cosa non... No, ok. Magari in magliette, cioè. No, non sono in magliette, sono vestito a soviet. Vedete come erano vestiti. Cosa ha il... come si chiama lì? No, sì, delle due... quello... è una sorta di uniforme grigia. Delle due, quello messo peggio, meglio di noi, in realtà. Forse. Si gira vestito da generale russo, lui. Non so. Intanto siamo comunque vestiti di merda per una festa, sì, quindi... No, cioè, comunque questi vestiti sono firmati. Beh, cioè, tu sei in... Ma delle due, esatto, io preferivo il non firmato e però pseudo formale. Però vabbè, immagino che sia questa la cosa. I prezzi sono quelli. Vai, vai, vai, prendi qua. No, ne prendo tre. Ok. Quindi cos'hai, 20 in mia testa? Sì, 60. 60. Sì. E poi i miei abiti sono molto rovinati. Beh, ce li hai da quando sei arrivato a Rilè. Allora magari cerco degli abiti simili, però nuovi. Se vuoi ti lavo io il bagno. Da comprare o da comprare? No, da comprare questo. Sì. Allora, vabbè, intanto mentre loro fanno questo. Mentre loro fanno queste 15? Cose. Per comprarli, sì. Quegli altri erano noleggiati, no? Sì, quindi sono 60-75. Tu conosci il medico, tu conosci qualcuno del partito? Ah, gli vuoi fare una telefonata? Politici, attivisti. Ditemi i contatti. Se tu prendi la pistola, poi torni e fai quello che devi fare. Beh, sono con lui, non torni. No, tu sei andato a prendere la pistola, lui è andato a prendere i cosi. Ah, sono separati? Sì, sì, no, ci abbiamo tormentato. Ah, esatto. Che non esistono le nostre per le armi. Esatto, sei nel caso. Con i pesci! Cade la pesca. Tanto Katta fa la telefonata al suo amico. Dimmi Katta, chi chiami? Il professore di medicina. Chiedo se conosco il professore. Il professore di medicina. Il professore di medicina è il signor Carton, che l'ho frequentato qualche sua. Sì. Ok. È umano? Sì, è umano. E mi ha fatto, insomma, mi ha insegnato un po' di base di anatomia di pesci, no, di umani. Ok, pronto, chi parla? Sono Figi. Ciao, che fai di bello? È da un po' che non ti si vede. Sono impegnato come collaboro in un'agenzia di investigazione. Avrei una domanda da porle. Uh-huh. Praticamente ci ha visitato questo conte, un tale conte Mendel. Mendel come signor Fox. No, Mentev come menta forte. No. Menten. Oh. Mengele. Il signor Fox e suo fratello. Ok. E ha detto che ha ricevuto delle minacce e stasera darà una festa. Ma devo fare il tuo lavoro? I dettagli, chiedi solo se conosci il la persona. Esatto. Tra gli invitati c'è questo professore di storia. Ok. Puoi dirmi il nome? Ci ha detto il nome. Fox. Fox. Signor Fox. Professor Fox. Professore di storia? Professore di storia, signor Fox. Ma aspetta, non è che è un migo, è uno di quei gamberetti lì? Io non l'ho mai visto prima. Secondo me sì. Secondo me è uno di quei gamberetti lì. Si insegna storia qua al college. Razzista, dove sono di medicina? Chi si conosce Fanny Peters? Per caso conosce una certa Fanny Peters. Fanny Peters? Si insegna anche lei? È una che tratta di oggetti... D'arte. Sacrazionismo. Sentito. Va bene, grazie. Chiedi cosa ci sta di questo Fox è simpatico, cioè se lo vedi diverti, prendi un po' per il culo, è uno che va in giro sempre vestito bene, solo che okay. È un amico, dai, fanno troppo ridere quei gamberetti schifosi. Sì, è vero, sono simpatico. Come te, grazie lui. Sì. Chiedi dove lo possiamo trovare. Non so se ha dei corsi oggi. Però ormai è un po' tardi, che ore sono? Le 3? Boh, secondo me, cioè io vado a casa tra un'oretta. Okay. Quindi, ce la facciamo? ce la fate, non ce la fai. No, domanda al master. Non so, cioè sì, potete prendere il Tentaculus, andare in facoltà e sperare che lui sia ancora lì. Possiamo chiamare la facoltà, se no. Giusto? Sì, potete chiamare la facoltà. Chiamiamo la facoltà. Chiamato l'Unibotu? No, però, cioè, oggi ci sono, oltre che c'è la segreteria degli studenti, ma oggi ci sono le mail. La segreteria degli studenti c'è, ma si chiede il professor Sticazzi, la segreteria degli studenti ti dice, manda una mail. No, ovviamente sì, ma all'epoca degli anni 30 si diceva manda una mail, nel senso che devono mandare una cosa postale. Però non stiamo lavorando con era la vera mail. Okay. E quindi io chiamerei la facoltà per chiedere se per caso il signor Fox tiene lezione oggi. Ah, ok, con il contatto è finito. Sì. Ok, quindi voi hai bisogno di qualcos'altro, Fiji? Chi dice? Qui me lo, se lo conosce, se sa. Sì, Mangime, ecco Mangime. No, sa quanto c'è poco, qualche cosa di Ah, mi scusi, è impegnato. Devo andare a giocare a golf. Ha ragione, scusi. Ma sa che gire bazzica di che estrazione sociale è? Lo sai come sono i Migo, stanno sempre tra di loro. Non... Che giro di amicizia è, appunto, sa se frequenta persone poche. Quello che so, frequenta quartieri molto alti, quartieri nobiliari anche. Ma sai, magari lui insegnando quelle cose lì conosce anche persone che si interessano di arte, sono qua dei letterati, non so bene. Ok, grazie. Bon. Ciao, allora. Stammi bene, Fiji. Okay. Io quando torno in agenzia con la pistola... Spoiler. sono strage. Aspetta, facci sentire. Strage, mi butto la pistola alla tempia. No, faccio sentire un attimo se c'è. Pulisco il bagno. Facciamo un'altra telefonata prima per sentire se sto Fox è in facoltà. Allora, e intanto io segreteria community cosa di indirizzi telefonici. Come, scusa? Cioè, abbiamo un coso di indirizzi telefonici, un elenco. Una pinna gialla. Una pinna gialla. Sì. Andiamo direttamente alla facoltà. Il telefono. Sì, ce l'hai l'elenco telefono. Va bene, mentre il signor Fiji chiede del signor Fox, io cerco Peters Fanny sull'elenco telefonico. Ok. Allora, Katta, il signor Fox non ha lezione il pomeriggio. Ah, avrei bisogno di contattarlo, può darmi il suo numero di telefono? Chiami domattina e le passiamo. Chiami qui domattina e le passiamo all'ufficio. Arrivederci. Fai la prova. In casa so. Fai una prova di socialità. A persuaderla per darla. Hai una carta negativa? Beh, ognuno ha i suoi gusti. Beh, non è detto che sia un umano il centralista. Magari è un umano, quindi si potrebbe stare. Fai una carta negativa. Comunque, tu hai comunque una carta negativa perché sei un giocatore con più cazzo. Oh, 3 e un 9 posizione 3 più le carte hai? Si vede il Kama Sutra. 3 più c'è qualcuno che ha le carte normali? Thank you. No. Socialità 4. Hai un... Guardi, io non posso dare il numero di casa dei pizzi. 7 4 più 3, 7. Guardi, io non posso dare il numero di casa dei professori perché non è che siamo un centralino. Guardi l'elenco, richiami domattina. Va bene, arrivederci. Sono andato fatta io, tanto che tu subisci le tue frustrazioni. Scusa, il telefono è una socialità. Cioè, tu non conosci il contatto. Ah, scusa, il tuo contatto. Pensavo. Non è che ci fai a cazzo. No, pensavo all'università a richiedere. Chiamo un gestore del locale conosciuto del night. Sì. Chi è? È un umano. Si chiama Fronzur. ha delle origini ucraine. E... Okay. Ciao Bud, dimmi. Ciao Franz. Ah, ci ha giocato solo per questo momento, dopo Vale. Va via. Lui vi lascia a casa, ma va via. Io ho fatto cadere una luna ghiacciata, No, beh, chiedo, se chiedo fosse stato un migo, avrei potuto effettivamente cadere da Plutone, vai. Cioè, chiedo un favore, come ai vecchi tempi, una soffiata se riesci. Dimmi. Conosci mica un certo conte Menten? Non sai se bazzica il tuo locale, vero? Ho detto come vecchi tempi. È magro lì. Non credo. Com'è? Basso, piuttosto magrolino. Con le ginocchia del giro. Con le ginocchia. C'è la ragazza. Non sai niente. Mi sa che non è di questo giro, cioè non so se non vai in night o magari non viene a questo night. E se ti lasciassi tipo un'oretta di tempo per fare un paio di chiamate, mi riesci a dire qualcosa o dici di no? Sì, sì. Chiamami questo numero e gli do il numero della gente. Ok. Ciao Bud, a dopo. E tu devi chiamare qualcuno. Mi cagavi il cazzo quando ho preso sul telefono io, appena ho preso la cornetta. Non ho detto niente. Sì, ma è russo. Quindi? Sbrega? Dai, eh. Che ore sono? Adesso le tre. Ho trovato Peters sul coso. Allora, fammi un tiro di... cioè, vuoi dire una carta? Ah, tu vuoi leggere l'elenco telefonico? Percezione. Ah, devo fare... Cos'è? Fammi un tiro di percezione con una carta negativa, perché non sai leggere. Ale, ho un Jack. Ok. E secondo te è un nome inventato? E percezione o 3? Non cambia niente, immagino. Il Jack è un fumble e una cosa negativa. Ah, okay. Ah, è tipo una despair? Sì. Va bene. Niente. Però magari poi cioè, no, se tu sei alla P, in giro vedi Peters e non trovi nessun Peters. Boh, comunque sia. Beh, comunque sa la, col fatto che io so che lui ha un po' di... No, ma tu non sai cosa sta facendo. Ah, nessuno sa che è analfabeta. Non so se ve l'ha detto che lui è analfabeta. No, cioè non, in realtà non avete avuto ancora modo di scoprirlo. Cioè, neanche io probabilmente mi rendo conto. E vabbè, allora così. Alla fine è esercitato la professione di avvocato. Tra l'altro è riuscito a laurearsi in legge. Cioè, diciamo, no, però poi ti dico, puoi darla a qualcuno e fargli vedere, cioè, lui in quella pagina. Dopo la cercare, se serve. Ma guardi, penso che non ci sia nessuno a Peters che ci può insegnare, interessare su questo elenco telefonico. Forse dovremmo andare in strada e cercare qualche informazione su queste case d'asta, eccetera. Non ho altre piste, onestamente. L'unica altra pista che ci può venire in mente è la signorina Peters. Non c'è Fanny. Non c'è sull'elenco telefonico. E questo, Fanny Peters. Fox invece. Fox. Il signor Fox è il professore di storia e la signora. Fox poi sull'elenco? Cioè, non sappiamo il nome del signor Fox. Poi c'è il signor Smith e il signor Max. Non sappiamo nulla del signor Fox, a parte che è un professore di storia. E sappiamo che vive nel quarto del vero. Vediamo l'indirizzo. Cerco nell'elenco il signor Fox. Tu cerchi Fox in un elenco del telefono a New York, tipo. Che abita nella zona bene dei professori. Ci sono 24 Fox, di cui 16 abitano nella zona bene. Cazzo, più di me. Non hai chiesto il nome al professore di Fox? Non gli abbiamo chiesto. Qualcuno c'era scritto professor Fox. No, dicevo, non ha chiesto tu il nome del professore. No, non l'abbiamo chiesto. Non ce l'ha detto al conto. No, poteva dire al tuo amico, però. Esatto. Vabbè, comunque. O anche al numero della tizia lì della centrale di Nice. Ma io nel frattempo sono arrivato e tornato con i vestiti. Ragazzi, vi ho preso vestiti. Vabbè, non so, il tuo non so se tagli sono giusti, però penso che e il, invece il suo signor Berezuski? Ah, io che ho preso un nuovo vestito. Vedi questo? Cos'è il nuovo vestito? Una maglia di Che Guevara prelitta. No, un vestito identico a quello che ho, solo nuovo, cioè una casacca grigia, un uniforme grigio. Signor Berezuski, lei ha usato dei soldi dell'agenzia nuova? No, 15, scusa. Lei ha usato dei soldi dell'agenzia per comprarsi un vestito assolutamente identico a quello che ha. Tra l'altro non so come lei abbia fatto a trovare un vestito del genere a Rile. E per questo le faccio i complimenti, ma... Cioè, questo è comunismo. Rubare i soldi alla comunità, questo sembrerebbe più un capitalismo. Io speso $20 di testa per voi per vestiti di merda, io per vestito funzionale nuovo, perché ma questo è per il lavoro, vestiti di merda, e tra l'altro con un cane, perché mi avvai, ma non è che poi io domani me lo metto per girare, questo me lo metto signor, stasera, ma signor Berezuski, fine. Va bene, vestiti di merda tra l'altro in affitto, non è neanche segni che a livello personale ci deve $10 ed è costato meno dei vostri. Quindi e tra l'altro lui a fine giornata ce l'ha ancora, mentre voi dovete ridarlo la mattina. Questo è quello che, sì, però a livello di missione, cioè non ci serve il giusto che lui abbia un vestito uguale. Vabbè, ma però è giusto, capisco che un vestito nuovo sia meglio di uno vecchio, tuttavia non è utile a cosa. Si segni che ci deve, che ci deve $10 alla nostra agenzia. A livello personale, io la metterei ai voti. Ma mettiamola ai voti. Mi sembra giusto. Io voto la pena di morte. Curioso per una dittatura sovietica. Io? Ma facciamolo. Sì, ma si vorrebbe dittatore. Chi qui è dittatore? Ad ogni modo, mettiamolo pure ai voti. Chi vota che il signor che sono $5 e che il signor Berezuski ce ne dia 10? Prima vorrei far notare che è costato meno dei vostri. Lasciamo che il signor Berezuski ci illustri le sue ragioni. Il vostro $20, il mio 15 è mio per sempre, quindi anche per nuovi incarichi io potrò mettere vestito pulito, mentre voi no. E... perché quando volete andare a... chi vota perché io non $10 alla gente. Io non l'avrei mai comprato se voi non aveste detto bisogna andare vestiti bene. Io è esattamente quello che le ho detto, signor Berezuski. Cosa? È esattamente quello che le ho detto, signor Berezuski. Io non l'avrei mai comprato se non sala, cos'è? È pronto. Tempura Investigation. Pronto qui debitore di $10. Mi portate l'altro vestito che ho ordinato, grazie. Sentite a che punto sono i miei Tiger Roll. Qui ebrei e che qui ebrei giocano con banche, a fare banca. Ma chi è? Fanno usurai. Ora che sono al banco sono tutti i Tiger Roll. Sentite i Tiger Roll e il tempura, perché sono tipo tre ore. È finiti, ha mangiati tutti i clienti ciccioni. Vabbè, e si aspetti però che parli male del vostro ristorante. Arrivederci. Succede. Carico 5 colpi sul telefono. No, dobbiamo ripagare. Sono le cose più preziose che abbiamo. Cosa? I colpi? Anche? Soprattutto. Gli estraiamo dai cadaveri. Va bene, signor Berezuski. Senza nessun indugio, segni che ci deve $10. A titolo personale. Detrarremo dal suo pagamento. No, se ci avessi chiesto prima ne parlavamo prima, non è che proprio spendere così a cazzo. No, capito, vai e compra dei vestiti per la serata. No, io devo dire, dei vestiti tanto $10 che devi dargli andranno nelle prossime cose del... Cioè, tu non hai soldi personali, quindi che cazzo te ne frega? No, ma niente, cioè, è che non capisco il concetto. Beh, ci abbiamo finanziato $5 perché è meglio un vestito nuovo, però questo vestito non è utile alla serata. Sala, dei soldi personali per la nostra vita privata l'avremo per fare. Non è vera vita privata, no, dico il gioco, no. No, chi è questo? Sì, però... No, vabbè, nel senso che lui non può mettere dei soldi. Scaliamo $10, molto, molto easy. Allora considererò un vestito mio e non per le missioni. Beh, sì, signor Zelensky, questo è un vestito suo. No, io l'ho preso per tutti gli effetti. No, io l'ho preso per missioni. Se altra volta c'è bisogno di vestito non bello. Non è un vestito da generale sovietico. Per missioni, no, non è vestito da generale sovietico. Comunque, è vestito pulito. Da ufficiale. No, non è da ufficiale. Normale vestito. E perché c'è quella stella? No, è un scusa, è un vestito da ufficiale sovietico, no? Non è un vestito ufficiale sovietico. Che cazzo di vestito è? C'è una giacca per andare in Siberia, che cazzo sei la migliore? Che, ah, che vestito è? E sarà... Sei come se tu adesso è vestito da coso sovietico, no? Dal capo di partito, da che cazzo è? Da cittadino, cioè non è che... No, cittadino. È un vestito normale in realtà. Cioè, avevano tutti la suddivisa cittadino. È un vestito normale. Ma sì, negli anni 20 non è che c'era tanto. In realtà è, rega, è vestito normale, solo non particolarmente colorato. Non è che metà di colore. No, vabbè. Okay. È un versivo che può essere uscito il pantalone. Può essere grigio piuttosto che marrone, ma non c'era le t-shirt con tutte le... Cioè, tutti questi problemi. In realtà è vestito normale, semplicemente non troppo... Via, liquide. Va bene, dai. Va bene, Giulio è stato penalizzato. Ora... Che ore sono nella giornata? Le 4? Le 4, 4 e qualcosa. Allora, cerchiamo di ottenere qualche informazione al volo. Qualche idea, qualche pista? Vabbè, stavo intanto... Ah no, mettiamo verso le 5 il tizio più o meno. Che... Allora, facciamo un attimo di break. Oddio. Chi ce la può... Per quello che le informazioni poche che abbiamo sul conte, chi ce la può avere? Cioè, allora, chi sa della festa sono solo gli invitati e il maggiordomo. Quindi una pista è poter collegare e noi, ma adesso. Hai comprato anche la bandiera. O quello grigio o quello marrone, cioè non è che sia tanta fantasia. Vabbè, Giulio. Sì, ma questo cos'è? Sembra più un ufficiale dell'SS. Ok, verso le 5 chiama il tuo... No, aspetta, faccio fare un brainstorming, maledizione. Sì, ma sì, in realtà sono solo loro, a meno che noi non crediamo che la chiamata... Ok, quindi loro sono una possibilità. L'asta. Esatto, se no l'asta. Però, la festa, però, c'è però no, però potrebbe essere qualcuno che conosce uno degli invitati, quindi intimo degli invitati, in alternativa. Sì, anche. Quindi... Puntiamo. Si allarga tutto un po' lo so, lo so, dobbiamo puntare una strada per le poche ore che abbiamo e provare a seguire quella. Le mie conoscenze di storia dell'umanità conosco ho già sentito parlare di sto pugnale. Prova con l'hobby internet. Il pugnale è detto perché sono strani e uni, cioè è tutto ciò che riguarda la teologia, non la storia. Fai una prova di teologia su cosa? Sul pugnale. Sul pugnale, no, ha già fatto Arci. Il pugnale, e... il pugnale che non l'avete visto. Esatto, no, l'abbiamo già fatto Arci, no. La difficoltà è enorme. Ma non è impossibile. Abbiamo la lettera. Stavo analizzando la lettera, così a primo ad occhio. Non riusciamo a magari trovare qualcosa. Perché magari quello che l'ha fatto è un deficiente, che ci ha lasciato dentro il biglietto da visita, dei capelli... l'indirizzo esatto, no, non tirare neanche niente, è un foglio bianco scritto a macchina. Il foglio però è un foglio da stampa normale o magari capisco che è un prezioso foglio? No, non è praticamente prezioso. E la macchina da scrivere non si capisce se è una scrittura di una macchina da scrivere. Beh, noi sicuramente no, qualcuno potrebbe, ma cosa ci servirebbe alla fine? No, non so. Per capire qualsiasi cosa. No, no, no, no, quello che tu dici era senso, però cioè, non abbiamo il tempo. Eh no, ok, infatti no. Sto pensando. Ok, verso le 5 chiama Franz. Bella Franz. Senti, ho cercato un po' in giro, dagli altri nightclub anche. Ti posso dire al 100% che il conte Mente non ha mai frequentato nightclub, o meglio, uno con quel nome non l'abbiamo mai visto qua. Quindi uno che non frequenti nel club o è uno che li frequenta e insomma una persona poco raccomandabile, però propenderei per la prima. Va bene, grazie Franzul, buon lavoro. Ciao. Scarico altri 5 a proposito Bud. Però scusami. Bud, senti, se ti sei annoiato di fare quello che stai facendo, io un lavoretto ce l'avrei per te. Un paio di serate. Sarebbe? Un paio di serate? Un paio di serate, fai il buttafuori qua da noi. Ma che serate sarebbero? Ma... No, beh, signor Pomogalli. Tappare buchi. Ma niente, il venerdì sera di solito c'è un po' di gente in più, magari, se ti va. Va bene, posso richiamare. Non hai appena detto che non vuoi fare questo tipo di cose perché hai visto troppe cose brutte. Però visto che servono gente ubriaca. No, ma no, io facevo come guarda il corpo, ma siccome servono soldi per l'agenzia, sarà qualcosa da fare. No, se è una giornata di merda che non abbia clienti, dico, chiedo se posso saperglielo dire tipo nella stessa giornata. Sì, certo. Ah, bene, posso. Easy. Grazie e buon lavoro. Sentiamo per venerdì. Comunque, io vorrei far notare che uccidere Conte, cioè c'è fila. Si spieghi meglio, signor Berezuschi. Cioè, potenzialmente anch'io potrei voler uccidere un conte. Ma tu sei un pure omicida. No, io non ho mai ucciso Conte, però lui ne sa tutti i casi perché lui è l'assassino. Ma sono io l'assassino. Non è terminato. Signor Berezuschi, lei ha conoscenze nell'ambito politico, magari sì, potrebbe sentire da uno dei suoi contatti se ci sono. Ma è un conte, non è un presidente, è un cosa. Ma nella società in cui siamo, comunque se è un conte magari che ha delle influenze da qualche parte. Non abbiamo nessuno. Berlusconi è un imprenditore, però c'è. No, appunto, è un imprenditore, non è un conte. No, ok, però magari è quello lì ricco sfondato e influenza in qualche modo. Può essere. Perché per dare 250 dollari a una manica di idioti come noi bisogna essere ricchi. Vabbè, che ore sono 5? Tra un'ora dobbiamo essere da cosa, no? Ma comunque in ogni caso non cosa si può fare in un'ora o in due ore. Cioè, dove so. Se la festa stasera ci fa cosa fare. Cioè, nel senso, anche se avessimo delle idee, che cazzo fai? Comunque io ho suggerimento per stasera. Andiamo a fare un sopralluogo. Serio. Sarebbe? La festa. Mangiamo a scoppiare. La festa va bene. Sì, ma non, cioè, non so come dire, non è che sei per forza un griccio di merda che ha braccino corto solo perché sei un sovietico. No, cioè, perché non abbiamo cazzo di soldi per mangiare una settimana. Ma ti hai fatto da mangiare in salata russa, buonissimo. ci mangi pranzo, finita, 4, salata russa, finita. E salata russa con crostino di vodka. La vodka ce l'abbiamo ancora, possiamo pulire bagno sporcato da questo. No, sicuramente disinfetta. Non pulisci con alcol perché alcol contiene zucchero. Poi d'altra parte la bobota fuori l'avrà pulito il bagno nell'unico modo in cui l'ha visto pulire. Dai, sto pulendo di nuovo. No, sono sempre così, non capisco. Vabbè, io lo dicevo per risparmiare soldi. Mangiamo stasera, ci strafughiamo là. Dai, dal mio punto di vista il mangiare è irrilevante perché io non posso anche non mangiare, però... Mangi? No, è diverso, tu non puoi mangiare. Non posso mangiare. Perché? Vabbè, a parte Gamberetto che non mangia, e boh, lo so, tu pesce mangi... Comunque è difficile mangiare, signor, magari mangi da altri orifizi. Esatto. Che assimile. Anche io il prosciutto crudo lo mangio per l'osmosi, me lo picchio sulle spalle. Ok, allora, uscite... Che sono le 6:30. Allora, che cosa possiamo? Allora, qualche altra idea a livello di prima di uscire, visto che un po' di tempo l'abbiamo, qualche altra cosa a livello di. Arrivare lì prima per fare un sopralluogo. Binocolo. Esatto. Non abbiamo binocolo. Binocolo. Per sorvegliare una casa. No, binocolo no, non però metti caso che noi siamo in zone che possiamo vedere da lontano altre cose. Siete in una casa dove un tizio è stato morto. Cioè, tu allora dici che da parte del corridoio vuoi vedere altra parte del corridoio? Abbiamo il revolver, voi avete i coltelli. Dalla finestra vediamo qualcuno che arriva da lontano. Tu hai chele di merda. E le torce le abbiamo. Torce 2, bene. Torce elettriche. Molto bene. E 99 proiettili. Non puoi sperare me, non è lavoro, dopo ti costa, ti restituisco la tua parte di munizioni. Uno dei problemi potrebbe essere il cibo, che potrebbe essere avvelenato. E come lo scambio il cibo? Non lo so. Lo mangerà il signor Pezzo? Giulio che dice buffa. Potremmo comprare un animale e dargli da mangiare, gli avanzi. non lo so come si sgama. Il primo ospite che mangia, ma fai in modo che non sia Mendel. Loro hanno detto che Mendel morirà, non ho altri ospiti, quindi il cibo non può essere avvelenato, a meno che non sia qualcosa che mangia solo Mendel. Oppure non gli sbatto un cazzo degli occhi, esatto. Vado a uccidere lui, se ne però se uno dei cli- però se uno dei però tutti i luri di bastardo. No, vabbè, lui ha letto, lui l'ha letto. Sicuro che ha avvelenato solo il cibo di mente. Fidato, so io c'ero. Ah, no, dai, proviamo. No, sì, troviamo un modo di come potremmo fare con un topo. Tipo, tu vuoi portare il topo in casa di Conte di merda? Beh, no, in cucina. Che è proprio il posto migliore. No, idioti, nel senso lo mettiamo, che ne so, gli andavamo, le mettiamo nella scatola, gli mettiamo il cibo. Tu fai mangiare prima uno di noi. Non lo so, se no come fai a beccare il cibo avvelenato? Basta che ci assicuriamo che non mangi mente per primo. Ci sarà Fanny che fa, che buoni questi. O al massimo lo mangia e non succede niente. L'importante è che non sia mente per primo. No, oh, ecco, potremmo... Cioè, a noi ci paga mente. Se tutti quanti si ammazzano di cibo avvelenato, e tranne lui va benissimo. Beh, no, non fa comunque bene al nome dell'agenzia, ma comunque capisco. No, però non è colpa nostra, nel senso ci sono dei coglioni che non hanno assoldato l'agenzia e loro mangiassero per primi. No, mangi lei, no. Esatto, abbiamo i 500, no, mangerà lui prima. No, signora Fanny, prenda quel numero al cantino. Una cosa che ci può servire del nostro adesivo. Per cosa, per signor? Un sacco di cose. Esattamente. Ad esempio lo puoi mettere nelle porte, le metti un pochino chiuse, così se qualcuno ci passa se vedi che e rompe il nastro, tu noti che è passato qualcuno. Sì, è vero. Sì, ma lo possiamo mettere a casa con 5 persone. Sì. Beh, no, cazzo dici? Vabbè, Salla, però noi vedete una testa, le seguite tutte. Noi cioè, per la nostra immagine, dentro, la nostra idea, c'è il rischio che qualcuno entri in casa per uccidere lui, sì, o che spari dalle finestre un cecchino, cazzo ne so, qualcosa del genere. Cosa. Beh sì, quello noi dovevo, cioè dovremmo cercare il cannocchiale, anche per vedere che non ci fossero tetti, alberi o cagate varie. Non credo che il primo pensiero sia di un cecchino. Vabbè, ma lo stiamo comunque anche uno che sia comunque in zona con qualcosa di Boston, no, il nostro adesivo ti serve anche per legare l'agenzia. Quindi non credo neanche che entri un uomo primitivo con una cava. Vabbè, dalla porta. Compriamo questo nastro adesivo. Anche se c'è allora prendiamo un zaino, sacco per mettere tutta questa roba. No, che solo il cazzo di nastro adesivo. Allora Giulio che fa, ho comprato 2 kg di nastro adesivo. Credo che in quello pastrano che ha comprato ci sia più che bello. E allora vede che serve per lavoro? È uguale a quello che ha. Vabbè. Sì, ma questo è più bello. Quindi? Vabbè. Ma regà, andiamo alla festa e io la vado a spazio. No, sì, nel senso, altre cose ci possono servir lì? Il mio binocolo non me lo volete far prendere, che comunque è un investimento, secondo me, per anche una lente di ingrandimento. Allora, il nastro adesivo è una cosa abbastanza rara. Allora, niente nastro adesivo. Cioè, nel senso, si trova, però costicchia abbastanza. Diciamo che, essendo un prodotto che è stato inventato tipo 3 anni prima, va bene, prendiamo una cosa, se vogliamo legare possiamo prendere una corda, ma no, ce la possiamo andare da loro che ce l'avranno sicuro. Prendiamo una lente di ingrandimento, così almeno siamo fighi, diamoci un una pipa a sto punto. Vale, bonito. Ok, una lente di ingrandimento. Magari stavolta no, ma costerà però un po' il binocolo. Quanto costa il binocolo? Quanto costa un binocolo? O un monocolo? O un mezzocolo? È sera, cosa vuoi vedere col binocolo? Esatto. Un ottavocolo. Dai, prendiamo questa lente di ingrandimento e andiamo, va. Sera, sì, andiamo alla nostra. Adesso la sera è 8:30. Però se c'hai le classiche villette con via lupo, via letto. Sì, ma è giorno 1, mese 2. Vai. Non so se è mese febbraio o 2. No, le stagioni non esistono, vanno a cazzo. Ma quindi un giorno sia caldo e il giorno dopo sia freddo. Okay. L'inverno sta arrivando. E anche alba e tramonto, cazzo. Più o meno sì. Comunque sono $3 per la lente. $3 per? La lente. Andiamo, se non avete altre idee andiamo. Questo sarà molto nice. Ok. Andiamo, raga. Cioè, la premissione è one shot, c'è un motivo. L'azienda chiude stasera. Non è una one shot, perché non arriverete neanche. Vabbè. Allora, uscite di casa e andate alla fermata del Tentaculus. Ah, finisce così, dice. Andate un paio di minuti. E sono qua. E si avvicina questa cosa in forme di tentacoli e carrozze e accosta davanti a voi. Sembra quasi che cammini sui tentacoli. E salite. Pagate un dollaro a testa al controllore. Vediamo. C'è un controllore. C'è un controllore. C'è un tentacolo. Si schiaffeggia in continuazione. Togliete i 4 dollari e poi vi accomodate in una carrozza in cui c'è altra gente che guarda preoccupata. Noi? In generale. Della loro preoccupazione. Comunque ci siamo presi essere lì. Ci siamo presi i vestiti e tutto il necessario. Estraete una carta a testa. 5 di fiori. Q di fiori. Sono quello che prende un jack. 4 di cuori. 4 di picche. Ok. Quanto hai fatto, Katta? Regina. Ok. Va bene. Arrivata a destinazione, un quartiere abbastanza figo. E scendete, l'indirizzo vi porta davanti a una villetta con un giardino. La villetta è tipo su due piani? La villetta è su due piani, sì. C'è un piano terra e un primo piano. Si vede solo. Fantastico. Sì. Ah, no, vuoi? Va bene. Che cosa? Così vedi anche Katta. Ciao Katta. Il vialetto lì nel giardino è illuminato. Il vialetto del giardino sì, ha un tipo un lampione. Ok. Vedi anche me. E diamo una perquisizione al giardino. Perquisiamo un po' il giardino. Sì, alla... Tanto dovete suonare il campanello, immagino. Che cazzo di investigatori saremo? Noi siamo già dentro. Mi viene a aprire un ghoul. Ah, salve, voi siete... E guarda un po' come siete vestiti. Immagino. Siamo la tempura investigazioni, in verità. Investigations. Devi essere boring. Boring. Il padrone vi aspetta in sala. Vi faccio strada. Entra dentro. Signor Boris. Tu parli così da te, venite. Mangerò i vostri cuori. Non è uno zombie, eh. Vorrei ricordarti che tu hai il controllo di mezzo di produzioni. Tu ti puoi ribellare. Ah, ti guarda male. Capisco, signor. E il compagno Stalin ha deciso di a meno di lei. A prendere i vestiti. Però capisci anche perché prima di... Ciao, che gestiva i gulag. Entrate in un atrio, vi apre la porta. Davanti a voi c'è una sala abbastanza lunga. C'è una stanza abbastanza lunga. In fondo ha delle scale che salgono. Una piscina sulle scale. Allora, prima di entrare, mentre lui ci fa strada, in antiscamo, io posso perlustrare il giardino. Sì. Cioè, ritardando l'ingresso nella casa. Sì, tira la percezione. Tiro un di 20? Sì. Allora, Boris, com'è mangiare carne umana? Porco merda, 2. Più 3. 5. Non ci sembra ci sia niente di strano. Nel senso che il giardino alla fine ha il vialetto e poi intorno ha solo delle siepi e boschettini e prati e basta. E un pratino. Dove c'è. Cosa? Su di voi dico davanti al giardino. Non c'è neanche un'entrata sul retro. Se ti può interessare. Però posso farla solo io o anche qualcun altro se vuole fare? Tu ti sei sei rimasto indietro e hai guardato in giro, gli altri non sono. Ok. Allora, e l'ingresso è una stanza abbastanza lunga. Mm-hmm. In fondo ha delle scale e una porta di fianco alle scale. E c'è una cassapanca sulla destra e un attaccapanni sulla sinistra in cui vi fa appoggiare se avete dei cappotti o robe strane che non avete. Vi fa strada sulla sinistra in una sala. In una sala molto grande, con un camino dall'altra parete, un tavolo da biliardo sulla sinistra e una tavolata lunga già apparecchiata sulla destra. Sulla questa tavolata c'è seduto Menten. Vivo? Io dico, chiedo, gentile signor Menten. Conte. Conte. Non è che prima di ci potrebbe portare in giro per la casa? Posso così fare un giro per la casa? Ai vari locali? Così andiamo un'occhiata per vedere. Allora, la casa ha tre piani. Cominciamo dal piano da seminterrato. Per accedere al seminterrato si passa dalla scaletta di fianco alla scala. C'è tipo la scala e c'è una porta che si apre, c'è una scaletta che scende. Okay. E questa arrivi in un corridoio. Allora, da una parte del corridoio vi fa vedere, vi apre, c'è una cantina con tutti i vini, dei salumi e delle altre robe tipo dispensa. Nella stanza è molto grande, nella stanza invece dalla parte opposta. Cioè, fate conto che la scala è in mezzo alla casa. C'è una parte di cantina e un'altra parte. L'altra parte è chiusa a chiave. E Menten vi dice che questa parte è chiusa, deve rimanere chiusa e sigillata. Ha preso misure di sicurezza e contiene molta parte della sua collezione. Possiamo tirare una percezione di questa zona qua? Come? Possiamo tirare una percezione per vedere se c'è qualcosa che ci colpisce particolarmente? E ci illustra le cose che lui sa. Che tipo di sicurezza ha preso? Per la mia collezione? Sì. Diciamo che ho i miei metodi. Potrebbe essere un po' più specifico su non è per essere personale, ma solo per cercare di fare al meglio. La porta è sigillata da un antifurto e all'interno c'è una misura di sicurezza. Va bene. Non ha altre entrate, immagino, questa camera. No, siamo sottoterra, come puoi immaginare. Per dirle, signor Conte, che dagli studi che abbiamo fatto e condotto, le consigliamo. Lei non frequenta le light. Lei non frequenta le light, quindi lei non spinge. No, e le consigliamo, anzi, le avvisiamo nel evitare, diciamo, di mangiare per primo qualunque pietanza, poiché c'è il rischio. Le mie pietanze sono assaggiate tutte da Boris. C'è morto. Quello di cui può morire Boris non c'è. Esatto, un gol può morire uguale a un uomo. Quasi tutto, tranne che se mangia carne non umana, sta malissimo. E voglio sperare che non sia carne umana. Io non ho capisco. Vabbè, allora ci accerteremo che Boris faccia il suo dovere. Mi fido ciecamente di Boris. Okay, il piano di sopra, l'ingresso ha tre porte, oltre alla scala e al coso. Una porta da sulla sala e una porta da su un bagno, sulla destra, entrando sulla destra, e la porta di fianco a quella del bagno dà sulla cucina. In più c'è un ingresso della cucina che dà sulla sala. L'ingresso della cucina che dà sulla sala, quindi la sala ha due ingressi. E sarà qui che si svolgerà tutta la festa, giusto? La festa si svolgerà in sala, soprattutto. Soprattutto, e dove altro intendeva? Beh, gli ospiti possono andare in bagno, immagino. Ah, giusto. Lei dice, l'hai convinto. E il bagno dove si trova? Nella parte, è una porta opposta alla porta della sala, di fianco alla porta della cucina. Quindi è una terza porta che c'è. Salame, non possiamo fare una prova di perception lì nella stanza per vedere se c'è. No, qualsiasi cosa che possa destare il nostro. Non so, vediamo una cosa che possa essere caduta, un eventuale un assassino, qualcuno che sia passato, qualcosa che possa, insomma, attirare la nostra attenzione fuori dall'ordinario. Vai su, ti faccio il piano di sopra e poi fai una cosa accumulativa. La sala, la scala porta su. Su c'è un piccolo ingresso che dà su tre, una piccola anticamera che dà su tre porte, cioè ha tre porte. Una è un bagno, una è una camera da letto e una è uno studio. Ok. Nella camera da letto c'è letto, baldacchino, con mobili, eccetera, una scrivania e una sedia. E nella, nel, nello studio c'è una libreria, due mobili che sostengono due oggetti d'arte. Vedete che uno è un vaso e uno è una sorta di libro chiuso. E c'è una scrivania e una sedia. Puoi fare la tua prova di percezione. Boom! Asso! Boom! No, non c'è niente di... Asso non è figo in teoria. Sì, però se non c'è niente da trovare... Sono sicuro che non c'è niente. Che asso è? Mentre il 2 che ho preso prima. Che asso è? Di picche. Allora, devi rimescolare il mazzo. Ti dico un'altra cosa. Sulla porta sotto della stanza sigillata c'è un piccolo... una piccola runa sulla serratura. Se ce lo dici possiamo fare una prova di tullologia. O potete chiedere a mente. Però magari mente. Vabbè, chiediamogli allora di sta runa. Abbiamo visto una runa per la, curiosità. Una runa o una runa? Una runa. Facciamo dell'antifurto. Se aprite, la, se aprite la porta senza la chiave giusta, allora c'è una trappola all'interno che si attiva. La chiave è in suo possesso, immagino. Sì, è l'unica copia. Riteniamo inoltre che sia necessario accertarci che gli invitati non abbiano, diciamo, con sé degli oggetti pericolosi per la sua persona. Non, non perquisirete gli ospiti. Lei si rende conto però del rischio che sta correndo? Sì, però sono amici. Cerco nella sala se c'è qualcosa attaccato sotto ai tavoli, il biliardo, il caminetto. Sì, fa parte sempre del tiro di arci e non c'è niente. Cato anche la sala. Ok. Controllo lo stato delle finestre, se sono tutte chiuse. Interessante. Le finestre c'hanno anche le grate. Ok. A tutti i piani? Sì. Vabbè, a due piani. Controllo lo stato delle grate. Sembrano tutte a posto. Ci sono delle librerie? Sì, piano di sopra, nello studio. Piano di sotto no? No. Ok, do una scorsa ai libri. Tira, percezione o guardo letto. Sei di cuore. Ma stai guardando per bene tu, scusami? La libreria. Percezione. O intelletto. Beh, sempre tre. Quindi nove. Ok, allora, vedi che nella libreria ci sono diversi libri. Una parte parlano di arte e di storia. E un'altra parte invece parlano di miti di Cthulhu e degli antichi. Ok. Ce n'è qualcuno che è in uso in questo, che sta leggendo lui in questo momento? Non ti pare. Oh. La scrivania è praticamente vuota, c'è una penna, dei fogli e basta. Magari c'è il classico libro che si toglie, c'è il passaggio segreto. E butto un occhio ai fogli sulla scrivania. Leggo qualcosa di interessante allora sono un po' di fogli, parlano di una compravendita di un oggetto, altri sono bolli di spedizione per navi. dal continente e basta. Mm-hmm. Ha una macchina da scrivere il conte? Sì. I caratteri sono simili a quelli della lettera? Per quanto tu ne possa capire, sì. Si confronta e si vede se i caratteri sono simili o meno. Dovresti scriverci. Oppure trovare qualcosa che è stato scritto con quella macchina. Sì, però considera che è una macchina da scrivere, non è che sia un modello super figo, particolare, che scientifica riesce a... No, guardi ad occhio che tipo di carattere usa. Se sono... Sì, sono più o meno simili. Ok. Va bene. Okay. Quando avete finito di peperostare tutto? Quanto manca l'arrivo degli ospiti? Pochissimo, perché siete stati... Vedere il bagno. Ve l'ha fatto vedere lui? Sì, come era fatto? Scusa, mi sono perso. Normalissimi bagni. C'è una finestra? Sì, in entrambi. Ci sono due bagni della sala, un bagno della sala. Giusto? Io non c'è di sopra. Ma il piano primo è... sì, no, ma che diciamo all'ingresso della sala solo uno, giusto? Ingresso della sala nessuno, no. Devi passare dall'atrio. Ah, nell'ingresso ci sono due bagni. Esatto, no, nell'ingresso c'è un bagno e al piano di sopra c'è un altro bagno, però non dà sulla sala. Ok, questi bagni hanno delle finestre con delle inferriate, giusto? Anche questi, giusto? Sì, sì. D'accordo. Va bene, io direi così. Allora, il signor Berezuski, per la sua felicità, sarà in cucina e si occuperà di vedere che il signor Boris effettivamente assaggi ogni pietanza e beva ogni cosa. Ma se sta male? Se sta male il signor Boris? Sì, se lui mangia solo carne di cadavere, ma mangia altra carne, sta male. Cioè io dico, sta male, però invece è buono se lui sta male. Penso che questo sia previsto, non lo so. Può preoccuparsi se sta male. Che cosa succede? No, chiediamo al signor Menten qual è il menù. Mi pare un po' una cattiveria. Il menù? Sarà un antipasto? No, al signor Menten, al signor Boris chiediamo qual è il menù. Allora, ci sarà un antipasto? Che verrà servito tra 10 minuti quando arriveranno gli ospiti. Dopodiché, tra un'oretta verrete accomodati a tavola e ci sarà la cena. Va bene, quindi io direi il signor Berezuski si occupa della cucina, di controllare l'operato del signor Boris. L'illuminazione della casa com'è? Interna? Elettrica. Vediamo dov'è il quadro elettrico. È in cantina. In cantina. Suggerisco di accendere qualche candela per creare un po' d'atmosfera. Avete carta bianca? Signor Figi, non è esattamente il motivo per cui lei è entrato a far parte di questo pesce romantico. Di solito ci serve frittura insieme. Perché vuoi accendere le luci? Perché metti che va via la corrente e rimaniamo al buio. Okay. Io ci vedo, no, però. Va bene, signor Figi. Tuttavia, allora, io sarò in sala, nell'angolo di entrata dalla cucina. Cioè, dell'entrata dalla cucina. Il signor Fumagalli e il signor Figi accoglieranno gli ospiti all'ingresso. Mm-hmm. I soprabiti chi li prende? Sempre il signor Boris, immagino. Okay, mi chiedo se non è un problema per Menten se noi facciamo un piccolo controllo sugli ospiti, appunto, anche ha detto di no. Zibra. Quindi dovrete controllare esatto il momento in cui tolgono i soprabiti e quando entrano, dovete stare molto attenti lì. Vi arrivate tutti gli ospiti, forse è meglio che in sala con me sia il signor Fumagalli. Ci sto. Mentre all'ingresso il signor Figi, cioè diciamo nel corridoio all'ingresso controllerà il signor Figi e dopo ogni volta che qualcuno è stato in bagno, signor Figi, le prego di controllare, diciamo in modo magari anche sommario, il bagno. Per vedere se hanno lasciato le latte sporco. Esatto, in quel caso chiameremo il signor Cubagalli. Ok. Prima di arrivare, proprio primissima di arrivare, chiedo al signor Fumagalli e io, sia io che il signor Fumagalli, facciamo un piccolo giro della casa fuori per vedere se è qualcosa di strano. Ok, tira la percezione. Joker, cosa vuol dire? Oh, Jack. Se puoi tenerlo, usarlo come asso. Jack, cosa penso? Che questa non sia una casa e un giardino. Quindi giro un'altra. Sì. Jack anch'io. Ok. Giro un lato dietro. Cosa posso fare? Che così l'asso per controllare il giardino? Me la tengo in una situazione peggiore. Non sei tu. Devi dirlo che non puoi tirare. No. Allora. Quindi cosa succede? Ok, girate. Siamo noi. Cosa? Non ho idea. Girate intorno alla casa e colpite una pistola per terra e uccidete mente. No. Però facciamo. Girate intorno alla casa. A un certo punto vedete mente che esce. Vi guarda malissimo. Sì, vi avevo detto che potevate girare. Però non dovete pestare tutte le aiuole. Cioè, adesso io questa cosa me la segno e mi incazzo. Anche perché gli ospiti stanno arrivando. E per favore, non perquisiteli, non fate robe strambe, perché ok che vi ho ingaggiato, però non è il caso di essere inquietanti. Ha ragione il signor Bente, ci scusi, conte Bente. Ha ragione, conte. Abbiamo agito per la sua sicurezza, però siamo stati sbadati, io e questo argomento. Quindi... Non ho fatto niente di strano. Va bene. Faccio. Drake. Quelle aiuole mi sembrano mosse in maniera un po', insomma, maldestra. Quasi. E anche di recente. Scarico in una aiuola 50 colpi. Va bene. Okay. Quindi all'ingresso sono Figi e Cubagalli. Allora, vi dirò esattamente cosa vedete. Ci sì. Siamo? Uh-huh. Volete segnarvi anche gli orari? Sì. Ci pensa il signor Berezuschi. Avete un taccuino? Sì, sì. A testa? No, ne abbiamo due. Quindi aspetta, potete segnarvi gli orari. Ne abbiamo due? Cosa vuol dire? Abbiamo due taccuini con matite... Comunque ognuno di noi ha un coltello, io incido gli orari sul braccio. Uno lo userà il signor Berezuschi e uno lo userà il signor Pesce. E io no, perché non so usare, immagino, con la penta. Ah, può scrivere verso, no? Può provarci, che mi sta così. Così fai tac e poi fai così. Cominciamo da Giulio. Mm-hmm. Allora, tu stai tutto il tempo in cucina? Sì, mi detto, parlo un po' con Boris. Ok. Allora, quello che succede è che tutta la sera... No, non tutta la sera, adesso quando arriveranno gli ospiti andrò anch'io un attimo di là a vedere gli ospiti. Allora non cominciamo da Giulio. Allora cominciamo da chi sta all'ingresso, così descrivo gli ospiti e poi abbiamo risolto. L'ingresso c'è capo, no? Sì. Allora, il primo arrivare è un ghoul, vestito molto bene, ma molto bene. Che entra e si presenta a voi due. A piacere, sono Loris Smith. Piacere, signor Smith. Chi siete? Smith. Siamo due membri della Tempura Investigation. Cioè, siamo qui per... Ah, sì, la storia inventata è stupida delle lettere. Ok, lo so. Va bene, cercate di non gironzolare troppo. Ci aspetta di dire tutto la cosa. Si limita a dire che siamo qui per la sicurezza della serata. Tu non ci sei, No, lo so, però nel momento in cui... Ok, detto questo, lui dà il soprabito e entra in sala e non lo vedete più. Va bene. Cerco di vedere se ha della roba addosso. Da come si muove, dalle pieghe dei vestiti. Tira percezione. Sì, lì ci siete tutte e due, dovete fare tutte e due percezioni. Regina di cuori. 10 di cuori. Ok, quant'è in percezione, Arci? Io ho un 3, quindi vado a 13. Ok, entrambi non vedete niente di strano. E porta due fedi alla mano sinistra. In che dita? Nel dito, nell'anulare. Due fedi nell'anulare o una nell'anulare e una a caso? No, due fedi nell'anulare. Ok. Sembra di noi. Oppure la moglie è morta. Oppure due fedi. Oppure ha mangiato due sposi. Che razza è? Lori. Maschio. Sì. Lori? Smith. Loris Smith. Ok. Ok, e basta, non notate niente di strano. Posso fare anche un percezione quanto entra in sala per vedere se fa qualcosa di strano? No, prima faccio no. loro due e poi faccio gli altri. Basta, poi dopo. Allora, il secondo che entra è Max Capust, si presenta così, ed è un dagoniano. E lo vedete che non è vestito particolarmente bene, e quando entra comincia subito a urlare, tipo, grandissimo, grande festa, allora, quando è che si beve? E poi si presenta a voi. E la nostra... Max Capusta, appunto. Se non fa sempre una percezione anche su di lui, vale quello di prima? No, potete fare una percezione su di lui. Percepiamo. 8 sì, sì. Di quadri più 3, 11. 6. Percezione più 3, 9. 11. Okay. Anche lui non sembra avere niente di strano. L'unica cosa che vedete, vabbè, a parte che notate che è tipo puzza di mare, di sale, di salmastro. Ha lo stesso profumo del mio collega. E basta, non notate nient'altro. Catta, tu vedendo quanto è umido lui, pensi che in effetti da un po' che non ti bagni. Infatti dopo che l'abbiamo accolto vado un attimo in bagno a rinfrescarmi. Ci vado anch'io. Okay. Ma sei a rinfrescarti? Si apre la porta di nuovo. Entrano due Migo e si presentano a te, Bud. Lo vedi che sono vestiti e sono vestiti. Lui è vestito in smoking col cappellino, bastone. Pantaloni. Possiamo fare le percezioni anche su di questi, vero? Sì. Tu, perché a Katta non c'è. E mai. Kappa di cuori. Ok. Lei è vestita e... Vince, dai. Aspetta, lei è vestita da donna. Cioè, come se fosse vestita da signora. Non ci sono amico uomini e amico donne. Cioè, non hanno sesso. Ah, non hanno sesso o non si vede il sesso? Non hanno sesso. Quindi come si riproducono? Non lo sai. Loro si presentano come signore e signora Fox. E noti che stanno abbracciati come se fossero marito e moglie. E non possiedono, cioè non hanno oggetti addosso, però sono tutti agghindati come se fossero nobili, tra virgolette. E basta. Dopodiché... Cioè lei il professor... Fox, sì. Insegno storia. Studente? Non credo. E lei è la mia signora. Lei è la mia signora e mia moglie. Okay. Faccio Fox e di nome? Ci siamo... Sì, il nome è John. John Fox? Sì, e lei è Daisy Fox. Piacere. E ci siamo sposati l'anno scorso. Siamo molto felici. Si vede. Ok. Prego, prego. Io non noto niente della sala col K. A parte no, Però, niente, vabbè, noti, sono vestiti appunto uomo e donna, signore e signora, abbastanza, abbastanza ridicoli. Possiedono tutte e due una fede nella, in una chela, cioè in un coso di una chela. E basta, niente. Sono le fascette. E Arch, c'è un problema, c'era un gol che ha vomitato. Ah sì, adesso la tiro. Ok, torna Katta, l'ultima che entra si presenta come signorina Fanny Peters e tirate K di picche. Che culo. Ci sto dominando delle K di picche. 3 di picche. Allora. 3-6. Ok, tu Archibald noti che quando si toglie il soprabito ha un libro nella borsetta che gli sporge, le sporge un po', rilegato in pelle. Umana? Boh, forse, non lo so. Lei è umana, vero? Lei è umana, sì. Faccio la salve, signorina... Peters. Peters. C'è una cosa che non è molto funny. Cos'è quel... No, ti chiedo semplicemente... Posso chiedere così per curiosità personale che libro ha nella borsetta? Ah, questi sono i miei appunti. Sa incantesimi e altre cose, quel lavoro che faccio. E sono un officiante del nostro grande presidente Cthulhu. Ah, sì, si era dato la parola corretta in questo caso. Ah, ok. E, il libro glielo facciamo entrare. Quel bel libro. Preferesti un vecchio del suo bastone? Sì, sono tua carta. Vuole lasciare la roba davvero nell'armadio? Vuoi lasciare la borsetta e la giacca nel guardaroba? Esatto. No, solo la giacca. La borsetta la tengo, grazie del pensiero, però. Ho lasciato il libro in libreria. E la borsa nella borsetteria. Ed entra dentro. Ok, quindi io Salla con i due K ho visto una in un coso, una cosa che avrebbe visto anche Ray Charles, cioè che una vista da donna. Non è questo, se non c'è niente da vedere non vedi niente. E l'altra invece è il libro che mi... tra l'altro non puoi neanche notare emozioni perché erano dei fottuti migo, quindi non sai che cosa. Però in realtà sono più che evidenti le emozioni per un migo. Si accende la testa, cazzo. Sì, ma già un migo è difficile che provi emozioni. Poi se non sei un migo non capisci un cazzo comunque. Io comunque dico del libro a tutti quanti. Aspetta, adesso va così. Loro entrano, no? Loro entrano e Vez tu li vedi entrare. Vedi che, allora... Loris si mette a parlottare con... Tu entri e poi io verrò da te a chiederti. Comunque di pure Salva. Loris si mette a parlottare con Menten. Il signore e la signora Fox si siedono in un angolo e parlano tra di loro. E Max comincia a fare un gran casino, va anche e a un certo punto va in cucina, poi torna di là, poi torna a parlare con Menten, poi torna in cucina, poi viene da te e ti dice oh bella giacca, eccetera. È come se fosse ubriaco. Grazie, signor... Max. Signor Max. auguro una buona serata. E poi si volta verso Menten e fa, dove li hai presi questi manichini qua? E invece Fanny arriva e si mette a parlare anche lei dopo con Loris e Menten. Ok, quindi Loris, Menten e Fanny fanno un po' camp tra di loro, questo qui gira e gli altri due... E la coppietta sta tra di loro. Sì. Ok, in sala così girano, insomma. Ma in sala parlano tra di loro? Sì, cioè nel senso non fanno cose particolari. No. Tipo potersi giocare a biliardo. Aspetta, allora, intanto Giulio, tu la cosa che vedi è che lui, Boris, sta lavorando, sta tirando fuori i salatini e vini e altre robe. E a un certo punto entra un tizio. Una pezza su... Come? E gli caccio una pezza su... Vabbè. E a un certo punto entra un dagoniano abbastanza grosso, che si mette a spiluccare i salatini, a spiluccare in dispensa, salutando Boris e continuando a manzucchiare, ignorandoti completamente. Dopo un po' se ne va. Ok, detto questo... Il cibo è sicuro, tipo un perception, così. Vabbè. Ecco, il personaggio di Giulio. Sei un cazzo di investigatore. Ho capito, cioè, è già passato lo scandaglio vostro. Sì, ho capito, ma vabbè. Vabbè. Detto questo, allora, se ti avvicini Wetzel con Smith e Peters, vedi che parlano di oggetti d'arte. Mm-hmm. Sì, io ascolto tutto, faccio un perception. Capisci quasi una sega di quello che dicono. Io dopo che è passato lì il dagoniano, vado un attimo nella sala dal gamberetto, gli dico: ma direi che il cibo più o meno è a posto. Signor Bresuskin, rimanga alla sua posizione, ma grazie delle informazioni. Intanto c'è Boris dietro col veleno. Esatto. È peggiore, ci cominciamo ad apportare tutto a puttane. Io tipo lo guardo, tipo ok, non posso guardarlo come un pazzo perché non credo che un Biguzzi sia in grado di farlo, però divento tipo blu, non lo so. È successo? Signor Bresuskin, torni in posizione, grazie di informazione, ma non lasci più la cucina. Aggiungimento, no. Io poi mi avvicino a, diciamo, facendo il giro lungo della sala. Beh, ci metterò due secondi, cioè, anche... E mi avvicino a Darcy. Io con Boris sto parlando e gli chiedo se ha notato qualcosa di particolare, se ha del giusto risentimento verso il datore di lavoro. Solo che ora sta lavando qualcosa. Cazzi tuoi. No, io dico a Vez, vabbè, il discorso dei due granchi che sono vestiti una da maschera e da femmina, anche se mi avete sesso, e che è strano. E quindi... È strano per me? Beh, non è così usuale. Però lo vedi anche tu, cioè non è che io l'abbia... Cioè noi non abbiamo... Sesso, no. Il producente con la riproduzione sessuale, a quanto pare non avete un sesso. Ok. E poi gli dico del libro della Fanny Peters. Diciamo eccentrico. Ma niente di sospetto che... Okay. Il libro ti dico che la tizia è una officiante di Cthulhu. Questo per me significa qualcosa di diverso da quello che è per lui? No. Tu logica posso fare? Se vuoi sì, però cioè nel senso è un ufficiante, vuol dire che è una sorta di sacerdote, di prete. Ok. E chi c'è con questo libro? Nella borsa e ce l'ha con sé. Che ma non è strano che un ufficiante commerci in oggetti, no? Beh, delle due anzi mi conosce di più. No, quello d'accordo, però non sono tipo sacri e non dovrebbero essere oggetto di... No? No, ok. E va bene, grazie. Cioè, ci sono anche degli oggetti particolarmente pericolosi, eccetera, però... O anche illegali alcuni, però in generale... Non... Comunque adesso, Menten ci ha detto, non ero attento prima, ci ha detto che noi non possiamo neanche interagire con gli ospiti... O partecipando alla... potete interagire, semplicemente non infastiditeli. Ah, però non dobbiamo disturbare. Quello che intendeva è non andate a dire state tutti qua in modo che possiamo vedervi e non muovetevi, cioè state qua. Quindi non è bello che giri così quando parlo. Esatto. Signor Fumagalli, dicevamo... va bene, signor Fumagalli, continui a monitorare la situazione. Ok, e... mentre parlate escono gli antipasti dalla cucina. Tenga da soli? Sì, da soli con Boris. Sì. Tu l'ha controllato oppure stava facendo una sega pensando agli alieni? No, io sto parlando con Boris. Cioè, sta facendo? Sono in cucina e parlo con Boris. Lui è un è arrivato, ti dico solo, è entrato uno, ha toccato tutto il cibo e Giulio era tipo lì così facendo così. Sbavando il dagoniano. Ha mangiato un po' è arrivato cibo. Lì, è entrato, ha toccato tutto, potenzialmente ha pregato qualunque cosa. Ma non ho mangiato. Buonasera, signore. La manca del veleno nei bicchieri. Ma non ha toccato tutto, ha mangiato. Poi dopo ha detto, Boris, esco 10 minuti, non avvelenare niente in quel periodo. Beh, quindi noi controlliamo durante la serata. Noi controlliamo. Cucina abbiamo già capito che succederà di tutto. Sono uscito. Vabbè, ma io con Boris ci sto parlando. Beh, Sala, io intanto faccio anche un giro verso le finestre. Cioè, nella sala. Okay. Do anche un occhio. Ti pare tutto tranquillo. Anche. Cioè, controllo sia le finestre che danno sul cortile, sia eventualmente finestre che danno in mezzo alla strada. Quando... Si vedono macchine che si parcheggiano sotto casa. Gente che entra, gente che esce. Non sembra niente di strano. Gli antipasti escono su un carrello, giusto? Sì, trasportato da Boris. Che cosa c'è? No, nel senso, che cosa c'è a livello di... Cioè, se c'è qualcosa di strano, se posso tirare un perception su tutta la cosa. Se io mentre sono... Vabbè, sono delle cose da mangiare, sono delle tartine, ci sono dei salatini, cioè... No, delle insomma, magari c'è un bianco, vedo che c'ha un coltellaccio schifoso. Non ti pare. Ok, va bene. Io mentre sono in cucina, cerco... cerco qualcosa di strano, magari se manca qualcosa. È sempre un coltello. Sempre maggior dopo. Tira percezione, Giulio. Giulio, devo giocare. Più 4. Ah, cioè che sarebbe anche quello giusto di cucina, in realtà. E no, non ti pare ci sia niente di particolare. Ho tirato due campi. Bravo. E dunque, 4 in percezione. Ma tu ci avevi tirato via l'asso di picche? No, no. Okay. I quadri, sa. Ah, di qua. Dove hai mischiato il mazzo? Mischiare il mazzo. L'ho fatto. Ah. Ed è uscito l'asso di picche? No. Ah, no, cappa di picche. Deve rimettere dentro anche quelle che sono uscite prima. No, l'asso di picche deve rimischiare il mazzo. Cioè, con le carte uscite rimischia dentro. Cioè, quando rimischi il mazzo, rimetti tutte le carte. Ah, no, le abbiamo tenute fuori. Rimetti dentro. Mischia. Vabbè, tranne lascio... Jolly ovviamente. Sì, sì, sì, lascio fuori solo quelli che sono usciti dopo l'asso di picche. Sì, vabbè, non ci formalizziamo troppo. Comunque, allora, con ordine. Dunque, i due amico stanno sempre più o meno tra di loro. Katta, tu sei verso il bagno, vedi che nessuno va in bagno, tranne una volta Max. E quando entri dopo di lui, vedi che ha lasciato un lago per terra. Tipico dei dagoniani di merda. Dici tu. Come te. Esatto. Riconosci tipiche tracce di un dagoniano in bagno. Te lo immagini che ha cagato in mezzo alla sala. Sono di merda. Nella stalla di un momento. L'acquario. Io. Ok. E che altro? Ho lasciato carta prima. Allora, quello che sentite me dei Migo non capite un cazzo perché parlano coi colori. Io sì, però. Se ci presti attenzione, sì, se no, no, perché è come se sussurrassero. Va, vedo di cosa, cioè, do un occhio per vedere di cosa parlano, senza entrare nel dettaglio. Okay, tira percezione. Ah, è un altro Jack. Quanti cazzo di Jack ci lascia sto mazzo? Vedi che a un certo punto la signora Fox si volta verso di te. Sì. E coi colori ti urla. Ehi, fatti i fatti tuoi, stronzo. Mi scusi, signora Fox. Cioè, coi colori sempre gli rispondo. Sì, vabbè. Sì, mi scusi, non era intenzione se parla. Come? Mi scusi, non era mia intenzione disturbarla. Vattene, vai a parlare con i tuoi amichetti umani. Ma io sono Migo. Appunto. D'accordo. Va bene. Ok, quanti Jack hai tirato fuori, Vez? 3. Grande, te ne manca uno solo. Adesso arriverà, ma sono di così li devi mettere dentro. C'è una cosa. Io comunque sto sempre nella zona più vicina al tizio. A me. Vicina? Cioè, da ex guardia del corpo. Ci sta, bravo. Tengo più d'occhio mente, pronto ad intervenire per qualsiasi eventuale pazzo omicida. Sentite che Smith, Peters e Menten parlano di oggetti d'arte e Menten si sta vantando del pugnale che ha comprato. Guardate questo pugnale. Anch'io questo lo sento. E no, è il momento in cui tu stai guardando il Migo. Sala, faccio anche una prova di percezione, se posso, sul soffitto o comunque dall'alto. Cioè guardi su? Sì. Non ti sembra scendere. Cosa? Mentre lo stanno pugnalando, io la idea. No, per sapere, tipo, su c'è tipo una... è una classica stanza normale o tipo c'è una specie di porticato? Sì, soffitto, dici. È normale. Stanno parlando tra di loro e intanto ogni tanto Menten si vanta di alcuni oggetti che ha preziosi e poi ogni tanto fa tipo così a Loris, tipo, poi alcuni non sono poi tanto legali, è vero? Grande Loris. E poi si vanta del pugnale. Se voi non fate niente... Beh, io do anche un'occhiata tipo dietro le tende. Cioè, okay. Sì. Sempre in posti in cui... Intanto tutti bevono, mangiano. Voi bevete e mangiate? Sì. No, io non bevo. Okay. Ma devo buffare. Ah, io non posso mangiare, cosa dico? Idratato. E a un certo punto... Cioè, però non è ubriaco, cioè abbiamo qualcosa così. Ci dovrebbe essere. A un certo punto vado un attimo dalla porta dell'ingresso e parlo un attimo, apro un attimo e parlo con Katta, gli dico due cose. Dico, tutto a posto, signor Figi? Tutto... bello di due. Magari se ha possibilità, gli dico piano, se posso dire piano, dia un controllo ai soprabiti per vedere se è qualcosa di strano. E poi torno dentro. Ma non lascia traccia di umido da lui. Non lo so, il signor Fini. Non so, dico, la cosa più sospettosa è quella che ha fatto notare il collega. E lei come lo sapeva? Ha detto. Il libro che porta Fanny. Sì, ma se ha la possibilità di accedere, diamo controlli magari sopra abiti per vedere qualcosa di strano. Va bene, do un occhio se qualcuno... Io Sala portava qualcosa di nascosto. Chiedo a Vez se può andare a fare, mentre io tengo d'occhio mentre un po' la sala, se può andare un attimo a dare un occhio anche in cucina per vedere che non ci sia qualcosa che possa essere aggiunto alle portate pian piano. Cosa del genere. Giulio. È Giulio in cucina. Appunto. No, sto controllando. Fatto. Io dico a Boris va avanti e indietro. Per Resuski a controllare. Ad ogni modo posso fare un check. Diciamo. Ok. Mentre tu gironzoli, Vez, Mentens si alza e muore. E muore, no. Si alza, si avvicina al signor Fox. Vedete che fa. E parlano un po', tipo. Poi vedi che si alzano. E escono dalla porta. L'ingresso? Io ricordo, io sono di l'ombra di Mentens. Sì, lui si volta e ti guarda e fa. Senti, devo far vedere una cosa al signor Fox giù. Nella stanza, diciamo, chiusa a chiave. E per favore, controlla bene la zona, controlla la porta, però non venirci a infastidire di sotto. Posso fare una prova di socialità, per dire una frase? Sì, cosa vuoi dire? Vedi, non per essere scortese, ma non entrerò sicuramente nella sala, diciamo, degli oggetti della collezione, però preferirei scortarla. In questo momento siete in corridoio? Il proprio tu sei in cucina. In cucina? Sì. Proprio per ascoltarla fino a tale sala, così do anche un'occhiata al percorso. Non posso rischiare di lasciarla da sola. Che guardo quando passa l'ultimo. Mentre si volta verso Kat e fa, e tu vai, vatti a godere anche tu qualcosa, è tutto pagato. E va bene, seguici fino all'ingresso, ma non entrare. Ok. Scendete giù. E Menten apre la porta e entrano insieme e chiude la porta dietro di lui. Un attimo, Salla. Cosa c'è? No, niente, non continuo. Sentiamo. Vai, Salla. Apri la porta. Entrano lui e il Migo. Uh-huh. Chiude la porta dietro di lui e basta, non senti più niente. Amore. Vez, sei da Giulio. Sì. Chiedo se al signor Berezuski se è tutto in ordine. Sì, tutto a posto. Salve, posso fare una prova di perception per vedere se riesco a sentire qualcosa del dialogo da dentro? Sì, può provare. Due di quadri. Cioè, sì, più tre. Il jolly volendo, però non l'hai usato. Ah, non l'ho adesso. Non senti usato. Niente. Va bene. Io rientro. Sì. E immagino che noto l'assenza di tutti. No, noti che... Vedi un pugnale grossissimo, sicuramente. No, vabbè. E vedi che Loris e no, Smith e Peters parlano tra di loro e parlano insieme anche a Max adesso. Però non c'è più il signor Menten. Non c'è più il signor Menten, non c'è più il signor Fox, ma c'è la signora Fox che si guarda un po' intorno da sola. Comunque, chi è che ha visto che andavo via con loro? Tu capisci? Mi avvicino alla signora Fox. Ancora lei? Cosa vuole? Ah, volevo fare le mie scuse per prima, sa, non niente di personale. Semplicemente siamo qui per... Va bene. Ha visto mio marito? No, a dire la verità. Immagino che sia col signor Menten, giusto? Di nuovo. Ormai sta sempre con il signor Menten, va bene. Lei non ha questa amicizia con il signor Menten, deduco. Non è amico mio, amico di mio marito. Capisco. Quindi non ho colpa. Un po' di queste cose sociali. Io non mi occupo di sistemare la casa. Beh, diciamo che è qualcosa di onorevole e necessario anche quello, insomma. Abbiamo un'agenzia se vuole, può rifare un po' di polizia. Scherzo. Va bene, non la disturbo ulteriormente, signora Fox. E dopodiché vado dalla porta e mi sporco. Sì, per chiedere a Carta che cazzo succede. Menten ha portato. Signor Fici, che cazzo succede, signor Fici? Menten ha portato il tuo amico. Chi è il mio amico? Il signor Figi? Il signor Fox. Non conosco il signor Fox, il signor Figi? Sì, dai. Sì, voi amico vi conoscete tutti. Cinesi del cazzo. Giù nella cantina chiusa a chiave. E il bando li ha accompagnati. Da quanto tempo questo è successo? Non lo so, qualche minuto fa. Ah, non abbiamo un orologio. Beh, ci sarà un orologio qua nella sala. Barbari. Da quanto tempo sono giù? Ma una ventina di minuti. Una ventina di minuti. Sala, io non so. Io... Va bene, signor. La prova lì di. La prova di percezione vale per tutto il tempo che stanno lì. Vedo, vado a controllare che tutto sia a posto. Io intanto le chiedo di controllare la sala al mio posto, magari mantenendo diciamo, di schiena la diretta. Vado vado in sala alla fine, e sì. Chiedo a portare più vicino. Chiacchierò con la è finita. Vabbè, ma ci sta l'audio, l'importante è l'audio, mi sa che è venuto bene. Chiacchierò con la signora Fanny e gli chiedo di descrivermi il pugnale. Vai dalla signora Fanny e chiedi di descrivermi. Vado giù a vedere gli altri. Ecco, mentre tu vai giù, Vez, vedi che in quel momento si apre la porta e escono i due tizi e la porta si chiude subito dopo senza farti vedere niente dentro. E Archie e lì? Penso lì. Sì. Ok, vabbè, allora torna indietro. Cazzo. E salgono su e tornano su. Salgono piano su. Sì. Prossimo alle 5. Prossimo alle 5 cosa? Autobus. Per andare dove? Casa mia. Ha preso parte alla sessione. Tentacolopus. Non sei venuto, scusami, autobus. Con 16? No, col 13. 9, 16 difendenti. Non c'è tipo il 61 col ferro puttane che passa di notte. Sì, sì, alle 2. Vabbè, sì. Va bene, okay. Chiudiamo questa sessione. Allora, vabbè, aspetta, colleggiati. Sì. Cos'è che hai chiesto, Katta? Di parlarmi del pugnale, sono curioso di sapere la sua storia, che cos'è. Il pugnale è una storia interessante, intanto è un oggetto di valore, piacerebbe possederlo a me, però vabbè, ormai avevo detto che l'avrei dato al signor Mente, e quindi lo diamo al signor Mente. E che altro? Niente, è un pugnale molto prezioso, si dice che abbia un potere molto grande. Ah, che tipo di potere? Ah, non lo so, solo i più alti in grado lo sanno. Si dice che sia stato usato insieme agli altri cultisti, e cioè ufficianti del nostro ordine, per risvegliare il grande Cthulhu. Accidenti, deve valere una fortuna. Sì, il valore è inestimabile, però grazie a me il signor Menten se l'è aggiudicato a un prezzo ragionevole. Mi piacerebbe potermi permettere un oggetto del genere. Solamente se potuto giudicare grazie a un prezzo favorevole. Grazie a lei. Grazie a lei. Mm. Aveva partecipato per qualche modo al master, immagino. Sì. No, era attivo. Ti disse qualcosa, sa qualcosa di eventuale avversario? C'erano, immagino, altre persone che volevano mettere le mani su questo oggetto. Sì, tipo io e altre 20 persone almeno. Secondo me è lei che vuole. Questo potrebbe aver scaturito un sacco di inimicizie nei confronti del povero conte. Beh, in realtà lui non ha presenziato a nessuna asta col suo nome, ho fatto tutto io, quindi nessuno sa che lui è il pugnale adesso. Beh, è una cosa sicuramente molto furba. Sì, per quello che ho detto, che grazie a me ha avuto una bella fortuna. Ah, ma eccolo che arriva, intanto entra Mente. Ma l'hanno già fatto vedere questo meraviglioso oggetto o lo tengono ancora nascosto? Ma credo che non lo farà vedere, mi sa che l'ha messo giù con gli altri. Allora, io quando torno nella stanza, nella sala, che sono salito dal seminterrato lì, voglio controllare se più o meno tutto era come l'avevo lasciato, se c'è qualcosa, cioè nella stanza qualcosa che possa tirare la mia attenzione. Le persone sono tutte in posizioni diverse, si può interessare. No, niente di speciale. Anzi, ti sembra esattamente tutto come l'avevi lasciato. Okay. C'è meno cibo, c'è meno alcol. E un'altra cosa, vedete che Menten si alza, vabbè, cioè si avvicina a Boris e fa: Boris, direi che è ora di servire la cena, no? Io sono il bando. Quando la ripresa, questo è come sarai tu nella prossima sessione, quando sarà toccherà a te Norbanidus. Tipo verde, cioè ci sono i filtri adesso. No. Io sono Van. Accomodatevi al tavolo, tutti, anche il vostro collega di là. Tutti al tavolo. Chiama. Datore chiama e io vengo. Per la cena. Tu vuole farsi ammazzare? O? Sì, vabbè, no, Sala, io mi siedo vicino a lui, magari. Sì. Però, no, qualcuno di noi, ragazzi, deve stare un po' di più in cucina. No, infatti, rimaniamo nelle posizioni. Sì. Dice, grazie, signor. Tu sei in cucina, puoi mangiare quel cazzo che ti pare. Io comunque mi siedo, io mi chiedo se posso sedermi vicino a Mente. Ormai è tutto sicuro stasera. Abbiamo visto che nessuno è riuscito a uccidere. Ok, allora io dico: chi è seduto dall'altra parte? Chi c'è? Io sono seduto alla sua destra, alla sinistra. C'è Menten. Tu alla sua destra. A sinistra chi? Chi c'è a sinistra? No, alla sinistra c'è Loris. Poi c'è Fanny, di fianco a te c'è Max, i due Migo, e poi voi non so come siete disposti. Rimaniamo noi. Ma voi siete tutti quanti a tavola? Il ghetto, no? Siete ghettizzati. No. Io a quanto pare sono in cucina. No, no, ma che scusa, tu sei fuori, vuoi star lì? Non c'è niente meglio, tu devi venire in sala. Ok, vabbè. No, prendete occhio delle zone strategiche, tipo entrate. Ok. Allora mi alzerei subito per un brindisi. Tutti, però, diciamo in parti... Tempo di mangiare a cena. Ok, Carta, tu stai di fronte, e io invece sto... Tu sei di fianco, Arci, giusto? Sì. Più o meno. A destra di... E io sto sul lato, guardando... Dipende, Menten, com'è rispetto all'entrata? L'entrata dell'ingresso? È dalla parte opposta. Ok, quindi Carta di là, io sto, ok, diciamo, nella se posso, sul lato, vedendo tutte e due, vedendo l'ingresso e mente nello stesso tempo. Ok, direi di proporre un brindisi. Con che cosa? Prende il bicchiere, fa un brindisi. Che faccio allora dalla porta? C'era della vodka in cucina? No. Un brindisi a voi, amici? No, se c'è, è in sala. Vabbè, allora vado in sala e mi verso un bicchierino di vodka. Giuro? Servendo la cucina, ok. Un brindisi a voi, amici? Brindisi da Boris. A voi, impiegati. E a voi... No, fa un brindisi a voi, amici, un brindisi a voi, nuovi amici. E guarda un po' così. Poi fa un brindisi al mio nuovo acquisto. E al mio compleanno. Papa. Cosa? La bottiglia era già aperta? O è non nuova? È una bottiglia, è un bicchiere. Mm-hmm. Sì, no. Ma ha aperto uno spumante per fare il brindisi? O era una cosa che era già aperta? E c'è il vino? No, c'erano dei bicchieri, aveva messo Boris dei bicchieri al centro e lui aveva preso un bicchiere. E nessuno ha controllato che deve aver stato il vino. Siete, no, mentre veniva versato. Vabbè, non è importante versato, perché cucina, quello che succede è prima che beve. Fa salute, alza il calice. Vedete che sta fermo così. Mm-hmm. Sentite puzza di bruciato. Vedete il suo corpo comincia a bruciare. Mm-hmm. E poi subito dopo le fiamme spariscono e lui cade a terra, ustionato come se fosse stato messo nell'acqua calda. Ma non è morto, vero? Sì, è morto. È morto? Ok. Bollito! Direi di chiudere la sessione. Così. Fanger, la manuale. Cos'è? Il Fanger. È quando la troia di Fanny? No. Chi è che ha il libro? La maga. Lei si è Fanny. Scarico 100 colpi sulla faccia di Fanny. Sappiamo che cazzo sia successo. Lo so, però è giusto così. Vabbè, dai. Ciccio lo può resuscitare. È il momento di andare su, rubare i soldi e scappare. Ah no, questo era un altro personaggio. Dopo l'avrei ucciso prima, ma ci avete messo una vita a arrivare in casa. Mentre siamo lì, ma Fanny, posso fare un tipo un percepire prima, cioè mentre brucia lì. Sì, si riesce a capire se qualcuno sta facendo, tipo se Fanny sta facendo una formula magica. Ok, tirate tutti percezione. Uso, sì, anch'io uso il Jolly. Uso il Jolly per vedere su Fanny. Ok. Allora, voi che in assoluto a nessuno di voi... No, ho preso una regina che è una merda, giusto? No. No, la regina sì, è una merda. E... Però c'è una cosa buona, Vez. Cioè, è fallito, ma c'è una cosa buona, esatto, giusto? Allora, vedete che tutti voi avete la faccia inorridita. Tranne Vez, ovviamente, e anche Migo. Allora. Sei per questo. Anche due Migo. Abbiamo una faccia inorridita prima che succeda. No, mentre succede. Ah, vabbè, ma che cazzo di cosa? Cosa vuol dire? Puoi fare il test prima? Cioè, su una cosa che è già successa? No, vabbè, ok, dai, dici tutto. Scusa. E non vedete, Fanny non sta dicendo niente, non è neanche vicino al libro, perché il suo libro è giù, cioè nel senso la borsetta è appoggiata a terra. Ah, fine. Sì. Anche Fanny fa una faccia inorridita. Sì. Sincera. Mi sembra sincero, sì. e nessun'altra cosa col Joker noi vediamo, col Jolly, scusami. Esatto. Cosa... Ma lui probabilmente, non è... probabilmente il suggerimento da fuori è stato fatto prima. O Boris oppure il tizio... Non sono andato. Esatto. Che tra l'altro non può fare una faccia disgustata perché è un migo. Infatti migo può cambiare colore. Cambia colore. È lo stesso colore. Colore non è le emozioni, è solo per parlare. Cioè, a meno che non ci sia un colore per... Beh, c'è un colore non ha fatto il colore per risatine. Va bene, e questo a cui avete giocato era Alba di Cthulhu. Mi dispiace avervi lasciato così. Però ho preparato anche 6 pagine di avventura che non ho utilizzato, quindi è un po' una sconfitta anche per me. Vabbè, lo useremo molto spesso. Io potrei fare mente. Aspetta, in realtà è carino perché adesso potreste fare gli interrogatori visto che il colpevole sarà uno di questi. Non hai detto che alibi a Sceo? Non vedo un peso in faccia. Late. C'è così interrogatorio. Va bene, e quindi avete visto Investigation and Chips, Invito a cena con Bollito, in quella che doveva essere una one shot ma potrebbe diventare una two shot e forse lo sarà. Abbiamo giocato ad Alba di Cthulhu, sarà la prima sessione del prossimo anno. Abbiamo tirato fuori delle carte, io ho tirato fuori tutti i jack che potevo, two shot one cup. E niente, l'appuntamento allora è a giovedì prossimo invece con Unstructured Heroes. L'ultima e sarà sessione prima di esattamente sarà sessione prima di Natale, quindi sarà la sessione natalizia anche dell'anno nuovo, direi probabilmente anche sì, anzi sicuramente perché il capo in parte per il Giappone. E quindi sarà una sessione così di giubilo. Il cliffhanger di nuovo. Va bene, e con questo vi ricordiamo gli appuntamenti, appunto vi abbiamo ricordati. Vi ricordiamo di andare sul blog, di andare a scaricare il podcast, di commentare su Facebook, di leggere qualcosa, vi prego. Di leggere Il Capitale di Marx. Questo esatto, in una sua edizione precedente. Tra l'altro, per l'inclusione potevi anche metterti una maglia di Che Guevara. Lo so, però oggi esce Rogue One, quindi è vero. Oggi è uscito sabato. Torre l'ha già visto. Quindi sabato andiamo. Perché è molto bello. Questo lo posso accettare. Ci ho già rotto il cazzo. E va bene. Quindi è molto bello, lo posso accettare. Quindi commentate, ma niente spoiler fino a sabato. Ha detto non si spiegherà dopo sabato, se no vi do poco. La visione di insieme di Arci. Però adesso finisce. Non pensare all'inquadratura. Raga, anche dopo sabato niente spoiler, se no morite tutti su Urbanino. No, io non spoiler. Quindi... Ah, perché tu non vieni con noi, vero? No. Beh, però lo guarderai là, immagino. No, non ho tempo. E va bene. Si può fare Star Wars in francese? Evidentemente sì. Ma c'è anche in inglese, ma non ho tempo. Immaginate di nuovo. Je suis le jeudi plus fort de tout le monde. E con questo, buonanotte a tutti. Alla prossima puntata, giovedì, a Structure Heroes. Ciao. Che schifo. Cioè. Come si può fare un